quindi per tutti quanti voi, una presenza e un rapporto anche a nome della casa editrice Cronopio, che è l'editrice di questa nuova edizione del caso Wilson, ma che ha con l'Associazione Lacaniana di Napoli già un rapporto, e questa presentazione e questa occasione intende consolidare. Abbiamo pubblicato 2 anni fa, credo, se non vado errato, la prima raccolta dei vostri testi successivi allo studio seminariale, che era Fobia e perversione nell'insegnamento di Jacques Lacan. Noi speriamo, lo dico a nome anche di Maurizio Zanardi e degli altri soci di Cronopio, di proseguire in questo rapporto, perché la casa editrice è interessata al discorso analitico e in particolar modo alla versione lacaniana del discorso analitico. Il caso Wilson è un testo molto complesso, su cui credo che faremo una lunga discussione tutti quanti insieme, che, come sapete, non è compreso nelle opere complete di Freud, perché in realtà c'è un problema intorno all'attribuzione di questo testo, perché è vero che è firmato da Freud e da Bullitt, ma in realtà è stato pubblicato molto dopo la morte di Freud, negli anni 50, se non mi ricordo male. 60 da Bullitt, dove certamente c'è stata una lunga e vari momenti di conversazione e discussione con Freud, che lo stesso Bullitt ricostruisce nella introduzione, ma appunto in cui resta complesso stabilire, o difficile stabilire, quanto è di Freud, quanto è di Bullitt, anche quando si parla di cose che sembrano essere capisaldi del discorso psicoanalitico freudiano. Nelle opere complete voi trovate appunto soltanto l'introduzione, perché quella è sicuramente in Freud, ma il resto del testo no. E per cui questo testo ha una storia editoriale un po' complicata e difficile, perché ovviamente è pubblicato a parte, a sé rispetto al corpus degli scritti freudiani, e dipende dalla buona volontà degli editori di rendere accessibile questo testo nelle varie lingue, anche l'inglese in cui è scritto originariamente. E esisteva una edizione di Feltrinelli, che rimanda ai tempi in cui le grandi case editrici italiane erano grandi luoghi di cultura, cosa che invece, come sapete, adesso non è più, e infatti questo ruolo è andato a finire nelle mani di piccoli editori come Cronopio, i quali fanno però hanno difficoltà enormi, economiche ovviamente, finanziarie e di mercato, per riuscire a, come dire, espletare quel compito che storicamente in Italia era di Feltrinelli, di La Terza, del Mulino, di Mursia, della Nuova Italia quando esisteva. Se poi uno va a vedere i grandi testi filosofici e saggistici, sono pubblicati in Italia da questi editori, e oggi noi cerchiamo di supplire male. Ma appunto, davanti alla proposta di Davide Tarizzo, che è qui alla mia destra, sinistra. Che ci ha proposto di ristampare, di rieditare in realtà questo testo, che era ormai introvabile da moltissimi anni, perché Feltrinelli aveva rinunciato ai diritti e comunque non esisteva più in nessun modo, noi abbiamo detto che la cosa ci sembrava assolutamente seria e importante, perché era comunque un testo che bisognava rimettere in circolazione. Per cui questa è una nuova edizione, una nuova traduzione, una nuova curatela, come si dice in gergo più accademico, curata appunto da Davide Tarizzo. E questo testo rientra appunto in una discussione che oggi dire, è abbastanza all'ordine del giorno, o comunque lo è diventato negli ultimi anni in Italia, cioè un rapporto più stretto, più diretto fra, come dire, profili psicopatologici, li potremmo chiamare, e modi di espressione della sovranità politica. Ovviamente la cosa ha riguardato storicamente Berlusconi in questo paese. Stamattina mi sono ricordato che uno psichiatra italiano importante, Mauro Mancia, si era lanciato qualche anno fa, proprio agli inizi della carriera politica di Berlusconi, in una specie di vera e propria diagnosi psicopatologica, adesso non mi ricordo quale era la diagnosi che aveva dato di Berlusconi, come se questo decidesse della illegittimità di Berlusconi a essere investito da un voto democratico, tra virgolette, ma democratico, del ruolo di primo ministro. Per cui questo è un problema reale, perché al di là della storia di Berlusconi, su cui ciascuno ha le sue opinioni, non dimentichiamo l'uso che per esempio in Unione Sovietica è stata fatta della psichiatria, dove venivano dichiarati malati di mente quelli che erano banalmente degli oppositori politici al regime. Per cui c'è un problema del rapporto fra la dimensione psicopatologica e la dimensione politica. Certamente però questo è un problema reale. E questo testo di Freud Bullitt rientra perfettamente all'interno di questa discussione, come d'altronde Psicologia delle masse, analisi dell'io, che sempre Davide, di cui Davide sempre ha curato una edizione nuova per Einaudi, e perciò rientra nel suo discorso. Comunque di questo parleremo meglio dopo. Allora adesso io direi di incominciare, e incominciamo però da una persona che abbiamo deciso di invitare a questo tavolo, ma che non è uno psicanalista, che non è, ma che in realtà noi abbiamo deciso che è un grande esperto di cultura americana. Adriano Vinale, che il signore è venuto lì, è un ricercatore di storia delle dottrine politiche a Salerno, e oltre a essersi occupato di tradizioni del pensiero politico, forse più da un punto di vista morale che da un punto di vista strettamente politico, però negli ultimi tempi ha deciso di occuparsi di cultura americana e di, come dire, mettere in relazione grandi correnti filosofiche americane, quali il pragmatismo, che poi è d'altronde la vera filosofia americana, ma connesse appunto con la politica americana, con la storia della politica americana, soprattutto ottocentesca, e con il problema del razzismo in America. Anche qua c'è lo zampino di Cronoprio, perché il suo libro su razza e democrazia, mi pare che si intitoli, l'abbiamo pubblicato esattamente noi, ed è esattamente un testo che affronta questo tipo di nessi. E allora abbiamo ritenuto che, poiché in gioco qua era un personaggio chiave della politica americana, della storia americana del Novecento, del primissimo Novecento, fine Ottocento, primi Novecento, che è appunto Woodrow Wilson, cioè il famoso presidente che si trova a gestire parte della guerra, prima guerra mondiale, ma soprattutto, come sapete, il trattato di pace, con i famosi 14 punti che sono all'origine della Società delle Nazioni, il primo, diciamo, la prima formulazione di quello che poi sarà l'ONU, e di una ipotesi di realizzazione della pace perpetua, riprendendo il progetto kantiano dopo gli esiti appunto violentissimi della prima guerra mondiale, ci è sembrato che Adriano Vinale avesse qualcosa da dire, e a questo vi passo la parola. Questo ci è sembrato, ci è sembrato male, secondo me ci è sembrato bene. Allora, già l'imbarazzo era notevole, perché appunto la mia formazione, io innanzitutto ringrazio Bruno per aver pensato a me e per continuare a credere nel fatto che sia un esperto di cose americane, cosa che ovviamente non è, ma insomma va bene, io mantengo questa illusione perché mi fa gioco. Ringrazio Cronopio per la riedizione di questo libro e chi ci ospita qui, perché ritengo che questo libro sia un libro effettivamente importante non solo per chi si occupa di psicanalisi, di Freud e quant'altro, ma anche per chi si occupa di cose politiche in ambito americano. Detto questo, però, il mio imbarazzo è grande, non è un imbarazzo, diciamo, emotivo, certo, ma è un imbarazzo innanzitutto perché la scaletta prevedeva che io fossi l'ultimo, quindi pensavo di arraffare qualcosa nella discussione e poi cercare di trarne, perché a questo punto ho anche l'onere di spiegare un po' la struttura del libro, a questo punto essendo il primo introduttore, il primo presentatore. Dico, l'imbarazzo è grande perché questo libro di cose americane non tratta praticamente per niente. Cioè, nel senso che nella parte conclusiva c'è la mano chiaramente di Bullitt, che proprio si occupa di politica diplomatica, di relazioni internazionali, dove riporta sostanzialmente come se fosse i retroscena più intimi, che poi sono sottoposti come materia analitica appunto alla diagnosi di Freud, fra virgolette, continuo a usare le virgolette perché questo è oggetto di discussione oggi, penso. E quindi questo è sicuramente una cosa interessante, ma appunto sotto il profilo del, dicevo, riporta le discussioni avute durante la conferenza di pace di Parigi e quindi sulla tutta la questione relativa esattamente alla stesura del trattato, alle varie contraddizioni, alle varie tensioni che si hanno fra il primo ministro inglese, quello francese, gli italiani meno perché vengono utilizzati sempre un po' più lateralmente, e appunto il presidente Wilson. E sotto questo aspetto è sicuramente, come dice Davide Tarizzo nell'introduzione, una gemma anche storiografica. Però poi, di pensiero politico americano, quest'opera non si occupa proprio, sostanzialmente. Allora, quando Bruno mi ha dato questa indicazione, cioè tu vieni perché sei un esperto di cose americane, mi sono letto il libro e ho detto, sì, d'accordo, sono un esperto di cose americane, ma questo libro, cioè di cose americane, nel senso di pensiero politico americano, esperto, tra virgolette, oggi sono un sacco di virgolette, però questo libro, il pensiero politico americano non lo tratteggia proprio, cioè non ci si relaziona proprio. Fino a che a un certo punto ho trovato finalmente un appiglio. Contentissimo che di questo autore, di Bagehot, Walter Bagehot, che è un autore inglese in realtà, ma Wilson fino a un certo punto della sua vita aveva una, come James, diciamo, Henry, non William, aveva una predilezione per la madrepatria britannica, per così dire, per cui è un autore inglese, che è un autore molto importante del pensiero anglosassonista, angloamericano, perché discute di un'opera su una sua opera molto importante, una sistemazione di tutta la filosofia spenseriana. Herbert Spencer è tradotto nel senso proprio traslato in America, quasi contestualmente alla sua edizione inglese, ed è un autore che ha una grandissima fortuna in America, naturalmente. E Bagehot è un autore inglese anche egli, che sistema ulteriormente la produzione spenseriana per farne uno strumento chiaramente politico in mano al contesto americano. La sua opera principale, appunto, è Physics and Politics, che, come si capisce dal titolo, cerca di portare a una congiunzione l'idea che della politica e della fisica, cioè l'idea che ci sia una fisica politica in qualche modo. Problema. Bagehot dichiara di essere un grande ammiratore di quest'autore, ma di quest'autore legge un'opera assolutamente minore. Anzi, la riscrive proprio quest'opera, che è un'opera sulla Costituzione inglese. Ora capirete bene che a 100 anni dichiarazione di indipendenza, dall'indipendenza degli Stati Uniti d'America, discutere di Costituzione americana dopo la guerra di secessione, cioè negli anni successivi alla guerra di secessione, è completamente anacronistico. Quindi lui fa un'opera sulla Costituzione inglese, Bullitt, credo, la riprende, Wilson, chiedo scusa, la riprende e ne riscrive un'altra sulla Costituzione americana. Anche là è proprio un dibattito fuori tempo, completamente slegato dal contesto politico post guerra civile americana. Allora mi sono ritrovato un'altra volta nel bel mezzo del problema, cioè di che cosa parlo se devo parlare come esperto di pensiero politico americano, sempre fra virgolette, se Wilson apparentemente col pensiero politico americano non si confronta. Cioè tenete conto che nella fine dell'Ottocento c'è darwinismo sociale, spencerismo, inizio del pragmatismo, cioè queste grandi correnti che iniziano a sistematizzarsi in America in quel periodo, e Wilson, che pure attraversa, diciamo, college e università americane, di questo non ha proprio, cioè non si avverte l'eco di queste cose nella sua riflessione, almeno in quello che ne riportano. Dicevo prima, Bullitt era una specie di lapsus, perché in effetti Bullitt è un testo, di cosa si ragionerà, è un testimone interessato della cosa, naturalmente, quindi riporta delle cose, non delle altre, quindi magari, che ne so, era un grandissimo esperto anche di altre cose, Wilson. Però fatto sta che in questa biografia, per così dire, diagnostica di Wilson non traspare. E allora, vabbè, siccome insomma in qualche maniera poi le paludi accademiche ci insegnano a tirarci fuori d'impaccio anche quando non ci sono appigli, qualche appiglio me lo sono trovato. Altra considerazione interessante: quest'uomo scrive una storia degli uomini famosi, dei grandi americani, e omette volutamente, apparentemente, fino a quando poi viene candidato come presidente per il presidente degli Stati Uniti d'America dal Partito Democratico, omette di trattare della figura di Jefferson, è, come dire, altra figura capitale naturalmente per il pensiero politico americano. Cioè veramente stavo proprio ogni giorno che passava, ma le dicevo Bruno, Bullitt, Freud, Davide, eccetera, eccetera, perché mi trovavo veramente con una difficoltà notevole. Naturalmente, rigirando il discorso, si tratterebbe di capire questi rimossi, queste rimozioni, proprio rimozioni fisiche, cioè non parlo di Jefferson, non affronta la questione del pensiero politico a lui coevo, cioè, ripeto, William James si studiava come manuale di psicologia nei college e nelle università americane, quindi non stiamo parlando di cose per specialisti, stiamo parlando di tempere culturale, se così mi posso esprimere, cioè non voglio essere storicista, però è chiaro che si parla di qualcosa che riecheggia nell'ambiente culturale americano. Tutto questo non c'è traccia, cioè non si fa cassa di risonanza di tutto questo. L'ultima chicca è la questione della guerra civile, cioè si dice apertamente della guerra civile, non mi ricordo niente, si ricordo episodi minori che a confronto quelli che cita Levi per motivare la sua vergogna nel campo di concentramento sono delle vere e proprie colpe esistenziali, vi ricorderete quell'episodio che lui racconta, Levi nel libro. Cioè cita episodi proprio minori, un soldato che passa e loro che lo sfottano, oppure lui, diciamo, sudista, nel senso abitante del sud, padre sudista, nel senso sostenitore della causa sudista, naturalmente lui è molto piccolo quando la guerra finisce, cioè ha 8 anni quando la guerra finisce, però Wilson, però non si può immaginare che non ci fossero riverberi successivamente, quindi tutto quel contesto economico di devastazione del sud americano non rientra apparentemente, nel senso sempre tenendo fede a quello che è il suo portavoce biografico in questo caso. Io l'altra biografia di Wilson non ne ho lette, quindi mi riferisco a Bullitt, no, apparentemente non traspare. E tutto questo è interessante, naturalmente è interessante perché c'è questo grande vuoto su cui si costruisce questa figura di questo presidente. Anche la sua promozione a candidato democratico sembra uscire fuori proprio veramente come un colpo di pistola, cioè non si capisce proprio perché, certo, perché insomma stava a Princeton, aveva una certa fama, ma insomma veramente stiamo parlando di un personaggio tutto sommato minore nel contesto anche culturale, accademico, non accademico, americano. Dopodiché però nel libro ritornano, mi ero ripromesso di spiegare un po' la struttura del libro, ma lo farete voi, faccio finta di essere l'ultimo a parlare, e poi vi saluto meno. In realtà alcuni elementi teorici molto interessanti emergono, ed emergono con forza. Mi perdonerete se alcune volte cito dei passaggi del libro, penso che sia un'occasione quella della presentazione in cui si è particolarmente legittimati a farlo. Wilson, siamo a pagina 38, quindi proprio nell'introduzione, dichiarava che i semplici fatti non avevano per lui alcun significato, che stimava solo le ragioni e le opinioni degli uomini. Questa dicotomia attraversa, si può dire, tutto il libro, attraverso l'introduzione di Davide, attraverso l'introduzione di Freud. È motivo del risentimento che Bullitt, che era un personaggio diciamo laterale ma appartenente alla delegazione americana del Trattato di Parigi e quindi della pace di Versailles, cioè un autore, coautore, se così si può dire, delle varie clausole della pace di Versailles. Dicevo, questa dicotomia attraversa tutto quanto il libro, tra fatti e opinioni. Dicotomia interessante perché è proprio su questa che si fonda la diagnosi, per così dire, clinica di Freud, cioè di questa dissociazione, poi sarà a voi spiegare, insomma, come va qualificata e classificata. Però per me questa, io appunto ripeto, sono stato un lettore vorace di Freud da studente, sono un rilettore abbastanza vorace ma con meno tempo di Freud attraverso Lacan adesso, però non sono un esperto né di Lacan né di Freud, quindi sono un asino in mezzo ai suoni, diciamo, ora sono solo l'asino, i suoni arriveranno dopo, però lo leggo con una prospettiva anche, diciamo, in questo senso mi fa anche gioco, perché è una prospettiva completamente estranea alla semantica psicoanalitica. Allora, quando mi si pone una dicotomia tra fatti e opinioni, naturalmente posso seguire questa linea in varie maniere. Però quando mi viene pronunciata la parola opinione, non posso fare a meno di tener conto che la democrazia, in particolare quella americana, è un regime delle opinioni. Quindi è un primo elemento per me assolutamente fondante della figura di Wilson. Quando si dice apparentemente in maniera molto discorsiva, quasi incidentale, anche se poi, perché il problema non è che Wilson segua le opinioni, il problema è che Wilson non guarda i fatti nella diagnosi, cioè si dissocia dal mondo sostanzialmente, progressivamente. Freud in questo caso, Bullitt attraverso Freud, o Freud attraverso Bullitt, questo sarà dato da spiegare dopo, segnalano un passaggio che dalla nevrosi porta alla psicosi e Davide nella sua introduzione lo richiama rielaborandolo e specificandolo in maniera secondo me a tratti convincente, a tratti da discutere, non discutibile nel senso diciamo, ma da discutere. Ma a me quando balza questa cosa dell'opinione, non posso fare a meno, dicevo, di pensare alla democrazia come regime dell'opinione. Allora, per me Wilson già diventa una figura non più, o meglio, la nevrosi psicosi di Wilson per me diventa non più una cosa individuale, di caso, appunto. Già il caso mi viene messo tra parentesi, diventa una figura esemplare per certi versi. Cioè singolare, universale allo stesso tempo, diventa un'incarnazione. Già a questo livello, cioè siamo a pagina 38 di un libro di 300 pagine, fare un po' di economia da studente, da programma studentesco, già mi viene segnalato un elemento per me luminosissimo, cioè questa cosa che lui se ne frega dei fatti, va dalle opinioni. Fra l'altro grande retore lui, grande oratore. Nell'infanzia di Wilson ci sta questa grande figura di questo padre presbiterano che è un grande retore da chiesa, da comunità, io non so bene come è organizzata la comunità presbiterana, ma insomma un grande predicatore sostanzialmente, questa figura su cui ancora una volta la diagnosi psicanalitica incentra tutta la sua analisi, appunto, questo incomparabile padre di Wilson, figura con cui Tommy Woodrow Wilson si relaziona, che è appunto un oratore, un retore. Anche qua il testo sostiene continuamente che Wilson abbia inseguito il padre esattamente su questo punto, sulla oratoria, sulla retorica. A un certo punto anche in maniera un poco sarcastica dice, insomma, a differenza della comunità del piccolo paesino, della piccola township americana, lui aveva come platea il mondo intero, era una questione di scala, di economia di scala, non cambiava niente nella sostanza. Anche qua non posso fare a meno di notare che la retorica, come le opinioni, hanno a che fare con la democrazia, cioè con un regime, è proprio la qualificazione del regime dell'opinione nella retorica. Piccolo problema che viene segnalato anche qua nel testo è che all'epoca non ci stavano ancora le radio, questo viene segnalato molto incidentalmente, però è una cosa fondamentale, perché fosse vissuto 20 anni dopo, cioè con uno slittamento di 20 anni, avremmo avuto anche ovviamente testimonianze tangibili, un leader carismatico di altra scala, con altra ridondanza. Invece naturalmente lui è ancora ottocentesco, cioè l'America, i mezzi di comunicazione sono ancora ottocenteschi. Però anche qua la questione dell'oratorio è una questione per me centrale, cioè del resto nessuno mi sconosce, non lo fa Freud, non lo fa Bullitt, che pure alla fine è un suo detrattore per certi versi. Lui scriverà una lettera di fuoco contro il presidente, diciamo, denunciandolo pubblicamente per l'atteggiamento tenuto durante il Trattato di Versailles, la lettera con cui si conclude il caso Wilson, appunto. La formula è: uno dei autori del libro scrisse questa lettera. Normalmente era difficile, fosse Freud a scrivere una lettera dimettendosi dalla delegazione americana, quindi è chiaro che poi è addirittura firmata la fine della lettera. Dicevo, è interessante questa cosa perché nessuno mi sconosce questa grande figura, la realizzazione della figura paterna attraverso questa cosa, cioè di un grande retore politico. Quindi ancora una volta una figura tipica della democrazia, una democrazia, quella americana, che è naturalmente in trasformazione. Altro elemento che Davide sostiene, secondo me con qualche ragione, anche se appunto lui attento filologo, che non solo naturalmente, non va troppo dentro questa questione, lui suppone a un certo punto che il motivo di dissenso, dovete sapere che questo libro passano quasi 7-8 anni, mi pare, tra la prima stesura quasi definitiva e la sua pubblicazione, praticamente in punto di morte di Freud, in cui, secondo il mio modesto avviso, Bullitt riesce finalmente ad estorcere ad un Freud ormai veramente tediato dalla questione la controfirma alla pubblicazione dell'opera. E Davide sostiene che uno dei motivi di dissenso, perché a un certo punto Freud dice sì, va bene, però ripensiamo su alcune cose, non è detto sapere, non è dato sapere quali cose siano da ripensare, però ad un certo punto dai nulla osta, e Davide sostiene nell'introduzione che questo motivo di dissenso sia di carattere religioso, teologico per così dire, cioè probabilmente c'erano delle affermazioni freudiane in cui leggeva l'alienazione di Wilson in continuità con meccanismi tipici della religione, insomma, almeno così io ho capito tra le righe di quello che tra le righe Davide diceva, quindi insomma è molto derelato. Ma anche qua, veramente basta uno studente di primo anno di un corso di sociologia o di scienza politica per sapere che quando Tocqueville scrive la sua Democrazia in America, la prima cosa con cui si confronta è la teologia, la religione, la teologia politica che pervade completamente il pensiero politico americano. Quindi anche su questo aspetto, cioè che poi clinicamente, come dire, esita nella identificazione problematica è ambivalente la doppia identificazione di Wilson con Cristo e Dio contemporaneamente, anche qua, anche questa sovrapposizione del teologico e del politico, questa come dire congiunzione del teologico e del politico è tipicamente americana. Basti pensare che la parola d'ordine di Wilson, prima pacifista, poi interventista, poi salvatore del mondo, non salvato, eccetera, eccetera, era enduring peace, pace duratura. Basta un po' di memoria storica recente per ricordarsi che Enduring Freedom è il nome delle campagne militari americane in Iraq, in Iraq e non solo, insomma, in Afghanistan, eccetera, eccetera. Non ricordo se fosse la seconda guerra del Golfo o la guerra in Afghanistan, ma insomma era la nuova campagna bushiana dell'Enduring Freedom. E come gli osservatori contemporanei a quella seconda battaglia militare, campagna militare, osservarono Enduring Freedom come Enduring Peace, Enduring, to endure in inglese ha una doppia valenza, che dura, ma che va sopportata, cioè che va sopportata nel senso che te ne devi fare carico. E questa ambivalenza resta nella parola d'ordine che non sapevo essere stata di Wilson, ma appunto questo Enduring Peace, ancora una volta una parola d'ordine tipica della politica estera americana, legata naturalmente a questioni di carattere teologico, perché appunto portatore di pace, no? La sua figura di portatore di pace, l'idea che l'esercito americano fosse un esercito di santi, il sacro graal da liberare, insomma, che non è solo una veste retorica, ma è una convinzione, ripeto, Tocqueville nell'inizio della Democrazia in America dice, guardate che i primi codici delle piccole comunità americane sono imperniati di religiosità, ma religiosità seria, cioè nel senso che per la fedifraghia, per l'ubriachezza, erano previste pene diciamo molto elevate, cioè tutto il carattere puritano, eccetera, eccetera. Tutto questo è un altro elemento, un'altra cifra essenziale della politica, del pensiero politico americano. Quindi da una parte le rimozioni e dall'altra questi elementi che ti riportano a una meccanica tipica della democrazia americana. Fino a un punto, su cui chiudo perché penso di essermi dilungato troppo, che è la questione delle masse. Secondo me poi questo è il tratto di Wilson. Veramente il problema è che lui non aveva la radio. Non nel senso che non si era comprato l'apparecchio, ma nel senso che proprio non aveva questo mezzo di comunicazione. E questo è il distacco dal mondo reale, perché lui è uno strumento, almeno sotto il profilo tecnico, come devo dire, quindi clinico. Lui è veramente una macchina democratica per certi versi, però il tipo di evoluzione della società americana, della società europea, delle democrazie, anche occidentali, a me cambia poco che l'Inghilterra fosse una monarchia costituzionale. È chiaro che si sta avendo un'evoluzione di tipo democratico, mi interessa poco sapere se costituzionalmente resta ancora una monarchia come lo è adesso, nessuno si sognerebbe adesso di dire che l'Inghilterra non è una democrazia, anche se tecnicamente continua a non esserlo. Dicevo, È come se ci fosse la vera sconnessione sotto il profilo del pensiero politico e della storia politica, è quella che lui ha un modo di funzionamento che è ancora ottocentesco, laddove c'è un'evoluzione delle democrazie occidentali che va verso i mezzi di comunicazione di massa veri e propri. Cioè, ripeto, viene segnalato nel libro, purtroppo non c'erano le radio. Io leggo, se ci fosse stata la radio parleremo di Wilson in maniera diversa. E questa cosa del suo rivolgimento alla massa, ripeto, a me non interessano i fatti, a lui non interessavano i fatti, interessavano le opinioni, a me non interessano, dice Wilson, i singoli, prediligo le masse. Cito ancora una volta, è meglio amare gli uomini in massa che individualmente. In realtà ritorna molte volte questa cosa in forma diversa, cioè il fatto che lui non si interessa degli individui, quindi che sia Lloyd George o Clemenceau o Orlando o il capo dell'opposizione repubblicana in Senato, gli interessa relativamente, con quelli intrattiene conflitti tutti personali, gli interessa, diciamo, il rapporto con le masse. Affermazione che anche nel testo viene detta e viene analizzata come elemento di sconnessione dalla realtà del mondo, cioè poi alla fine il mondo è fatto di uomini, però che dice molto chiaramente di un'evoluzione, come dire, governamentale, per così dire, anche nel suo approccio politico e nell'approccio che si sta avendo. Cioè, ripeto, lui gli strumenti li stava mettendo, è come se fosse, per me, un po' in anticipo sui tempi, per certi versi. Cioè, aveva degli strumenti che si andavano affinando verso quella cosa, e però non trovavano canali, e non uso a caso questa parola, di utilizzo efficace, abbastanza efficace. In questo senso, e questa naturalmente è la provocazione, tutti i questo libro è feroce con Wilson, è veramente feroce. C'è un punto di ferocia incredibile. Wilson, l'estensore dei 14 punti, a un certo punto Freud, penso, o Freud attraverso Bullitt, o Bullitt attraverso Freud, mettiamo tutto tra virgolette, pure Wilson non se ne parla più, enumerano parallelamente, non si può notare un elemento ironico in questo, i 14 crolli di Wilson, che è una cosa spettacolare, i 14 punti di Wilson, i 14 crolli di Wilson, cioè le 14 crisi isteriche di Wilson, anche questa, anche l'elemento della crisi, scusate perché ho detto che stavo finendo, ma in realtà sì, sto finendo, anche la crisi è un elemento tipico della democrazia, quindi anche in questo per me, per me la tesi che ve l'ho sostenuta da un po', che non è una tesi banalissima, è che la democrazia sia un regime della crisi, cioè che funzioni attraverso la crisi, non sia un elemento congiunturale la crisi, sia un elemento strutturale la crisi nella democrazia. Allora il fatto che Wilson, cioè che Freud e Bullitt dicano di Wilson che ai suoi 14 punti si possono affiancare i suoi 14 crolli emotivi, per così dire, i suoi 14 collassi, Davide, diciamo, riprende anche questa cosa nell'introduzione, è altrettanto lampante, perché è un uomo che è critico, cioè che crolla, esattamente, crolla e si riprende, crolla e si riprende, crolla e si riprende, crolla e si riprende. È esattamente questo meccanismo che funziona nella democrazia americana da sempre, cioè elementi critici, elementi di ricomposizione. Va bene, diciamo, più o meno mi fermo qua, facendovi vedere un'immagine, che è questa. Un'immagine. Avevo chiesto se c'era un proiettore, non c'è, ve la posso passare con qualche. Fra l'altro avrei preferito quella anziché il sono tre copie. Quella di cui parli anche. Sì. Che è un'immagine di Wilson, appunto. Fatta da. Questi sono living photos fatta da un fotografo americano e da un fotografo inglese, tale Moll e Thomas, se non ricordo male. E sono personcine, sì. Per chi ha un po' di dimestichezza con l'iconografia politica, è chiaramente una rivisitazione del Leviatano di Hobbes, naturalmente, questa qua, no? Ora, gli hanno fatto le orecchie piccole in questo caso, perché sapete che Wilson aveva un orrore per le sue orecchie, perché a un certo punto manda a quel paese anche un suo ritrattista nell'ultimo periodo della sua vita, perché aveva fatto le orecchie troppo grandi. Poi si pente, piange, insomma, lo reintegra. L'uomo che ama le masse piuttosto che i singoli e che considera gli individui piuttosto considera le masse piuttosto che gli individui. E questa per me è proprio l'evoluzione della questione. Cioè è un uomo abitato dalla testa da una massa, questi sono soldati naturalmente. Hai detto una fotografia, no? È una foto, una foto, una foto. È una foto, proprio una foto, non è una foto montata, è una foto. No, è una foto. Cioè, questi due signori prendevano 100.000 persone, li mettevano in forma, hanno fatto la Statua della Libertà, li mettevano in questo caso è una delle case natali di questo non l'avevo notato, di Wilson, Chillicothe, ha messo, che si pronuncia così, nell'Ohio. Quindi hanno preso questi soldati a Camp Sherman, li hanno messi in posa, si mettevano su un trespolone con gli scarsi strumenti dell'epoca e li fotografavano. Allora, questa rivisitazione iconografica per me è proprio, cioè, classica del regime democratico, anche questa, cioè un comando diffuso. E per me, nelle sue psicosi, e questa è naturalmente la domanda che lascio agli altri presentatori, Wilson è proprio l'interprete perfetto della democrazia americana, perché è colui che è abitato dalla massa, non dal... Quindi, in questo senso, mi fa difficoltà un'analisi così individuale di Wilson come caso, perché per me Wilson non è un caso, ripeto, è un esempio. È la tipica espressione della democrazia americana, con tutte le sue, i suoi tratti critici, psicotici, dissociati e quant'altro. Allora, in realtà l'idea di invitare Adriano era giusta. Stai mentendo? No, ma è vero invece, perché ci ha dato un sacco di indicazioni interessanti che io personalmente riassumerei con questa domanda. O Freud, come tanti intellettuali europei, è anti-americano, mi pare evidente, oppure la democrazia è strutturalmente psicotica e dunque cosa stiamo cercando? Mi pare che questa sia alla fine la questione da lui sollevata. Mi veniva in mente una sola cosa, perché è una lettura recente, che c'è una battuta di Leopardi che viene riportata nel film di Martone, in cui Leopardi, proprio davanti ai teorici della democrazia e del progresso, dichiara che a lui non interessa una massa felice di individui che però sono singolarmente infelici. E questo potrebbe essere una forma di replica in qualche misura al discorso. Comunque, no, io credo che il problema che ha sollevato Adriano è questo, che lui nota, come d'altronde anch'io, devo dire, alla seconda lettura di questo testo, che a me sembra che, diciamo, l'antipatia di Freud e di Bullitt, quella di Bullitt è comprensibile perché rimanda evidentemente a problemi e a contrasti biografici che lui ha avuto per la sua posizione di diplomatico americano in Europa con, diciamo, con Wilson. L'antipatia di Freud, francamente, a un certo punto sembra eccessiva, perché anche la questione dei fatti mi sembra strana, nel senso che tutta una grande tradizione anche politica europea pensa che, appunto, i fatti intesi nel senso positivista del termine o empirico, ma insomma il grande politico come il grande fondatore di morale se ne infischia dei fatti, quella è la sua capacità di andare oltre i fatti. Questa insistenza freudiana appunto sul fatto di non vedere i fatti, e questo è un'accusa che viene rivolta a Wilson, sarebbe un'accusa che si può rivolgere a qualunque politico, perché altrimenti la politica sarebbe ridotta al realismo, se dovessi leggere alla lettera quello che Freud e Bullitt dicono su questo piano. Comunque, vediamo adesso invece che cosa ha da dirci lo psicanalista per excellence. Vai. Questo mi preoccupa, che hai presentato Adriano come l'esperto, ora come me l'eccellenza, vuol dire che ci stai preparando un bel colpo. No, assolutamente. O ci sta pigliando, vero? Allora, no, intanto devo dire che Adriano, diciamo così, ha toccato un paio di punti che nella mia lettura sono molto importanti. Forse prenderò qualche minuto in più, ma anche perché per uno psicanalista, dato che dice il nome di uno psicanalista, che se fosse stato lo Bullitt, non ce ne fregava nulla. Ma dice il nome di uno psicanalista, con uno qualsiasi, che è Freud, che scrive un testo su un caso che è, appunto, il presidente Wilson. Il caso Wilson non si trova nel titolo inglese, diciamo così, è tradotto in tutte e due le traduzioni italiane, la prima quella della Petrelli, la seconda, diciamo così, è quella usata da Davide, però è diciamo così, una traduzione italiana il caso Wilson, quindi questo non è così il titolo completo. Quindi, però le questioni che ha toccato Adriano per me sono molto importanti, diciamo così. Io la prima cosa che faccio e che desidero fare è intanto invitarvi a leggere questo libro, perché mi sembra molto importante, perché può essere anche formativo per chi fa poi attività clinica leggere questo testo. Io mi propongo di sviluppare, diciamo così, questo mio intervento in tre punti. La prima questione che pongo, il primo punto, è una questione metodologica, diciamo, perché noi ci troviamo qui davanti a un testo, diamo veramente per scontato che il caso Wilson è il caso Wilson, e dopo riprenderò una notazione giusta che ha fatto Adriano e che io condivido, e leggo questo come un caso a condizione di dire che è il caso di un soggetto collettivo e non di un individuale. La prima questione che si pone è metodologica, perché effettivamente qui Freud parla, diciamo, Bullitt non aveva fatto un'analisi, Freud aveva in analisi la compagna di Bullitt, che era Louise Briand, che era in analisi con Freud. Freud parla, e non è la stessa cosa dei casi clinici freudiani, cioè quelli che Freud ha visto direttamente, cioè l'uomo dei topi, l'uomo dei lupi, Dora. Non è nemmeno il caso, per esempio, di casi che Freud non ha visto direttamente, come il caso Schreber. Lì Freud ha le memorie del testo di Schreber, quindi effettivamente, diciamo così, il testo che è reso conto alla malattia mentale di Schreber dal secondo ricovero in poi, e non solo, perché poi Schreber, quando pubblica la sua opera Memoria di un malato di nervi, prende anche le perizie psichiatriche. Ora noi non abbiamo qui, diciamo così, nessuna perizia psichiatrica di Wilson, cioè si parla di crolli nervosi, si parla di una dispepsia funzionale, si parla, diciamo così, di emicranie, è la categoria diagnostica utilizzata, per esempio, in un paio di circostanze, la nevrastenia, che era una categoria diagnostica della medicina americana fatta da Bird, che Freud aveva demolito nel 1908 nel testo sul nervosismo comune. Allora, già qua orientarsi e dire, fammi capire bene che cosa è di Wilson e che cosa non è di Wilson, perché non è di Wilson? Perché il testo, la costruzione del caso si regge tutta su discorsi fatti da Wilson e su testimonianze. Testimonianze che vengono dal biografo Baker, ma naturalmente, per esempio, una biografia è sempre problematico utilizzare una biografia per costruire un caso, no? Per esempio, l'analista non è un biografo. Lacan lo dice chiaramente, per esempio, all'inizio di un testo che è Giovinezza di Gide o La lettera del desiderio, quando ad un certo punto, parlando della biografia che Jean Delis aveva scritto su Gide, Lacan lascia intendere che il biografo si fa portare sempre laddove l'autore vuole, no? E quindi, diciamo così, prepara il terreno per chi la leggerà nei posti. Quindi qui bisogna, diciamo così, fare molta attenzione nella lettura di questo testo. Quindi, diciamo così, è anche una sfida per il lettore che si occupa di psicoanalisi e della pratica analitica, cercare di individuare tra tutte queste testimonianze quelle che sono, diciamo così, veramente inaccettabili, perché a un certo punto effettivamente si dice, viene riportata la testimonianza di un maggiordomo qualificato intelligente che dice che Wilson era un giovane vecchio. Ora, qual è l'esigenza di qualificare un maggiordomo intelligente se non per far capire al lettore che te la devi bene questa testimonianza ed è valida, no? Ma ce ne sono tantissime, cioè basta vedere la strategia utilizzata, questo è un testo scritto e quindi deve persuadere a sua volta il lettore che gli autori hanno ragione, secondo me più Bullitt che Freud. Questa era la prima questione, una questione metodologica, come affrontare questo testo che pone effettivamente dei problemi. Che anche un maggiordomo imbecille vuol dire una cosa in no, non è che, anzi, a volte i consigli dicono delle cose più interessanti di quelli che sono intelligenti. La seconda questione è la questione che pongo della diagnosi, perché effettivamente è una questione che si è posta e torna nell'introduzione di Davide al testo. Cioè Wilson era nevrotico, Wilson era psicotico, in realtà non ne sappiamo nulla perché Wilson non era mai stato sottoposto a nessuna visita psichiatrica, nel testo non emergono visite psichiatriche, cartelle cliniche psichiatriche, non emerge niente, la sintomatologia di Wilson appunto è qualificata come queste dispepsie, questa situazione di dispepsia funzionale, emicranie e poi diciamo così viene detto a tratti che era depresso, irritabile, viene usata anche la parola malinconico in una circostanza, ma più che altro come uno stato d'animo, cioè più che altro come uno stato d'animo di Wilson. Freud non si sbilancia molto, diciamo così, devo dire che si mantiene molto, invece gli autori dopo Freud invece hanno fatto delle considerazioni, per esempio Gerard Miller, che cita anche Davide nella sua introduzione, ne fa uno schizofrenico, diciamo così, che mi sembra un po' troppo. Fornari, che è stato quello che ha fatto l'introduzione alla prima edizione di Feltrinelli, curata da lui aveva fatto l'introduzione, ne fa, essendo un kleiniano, diciamo così, lo vede tra la nevrosi e la psicosi e parla di tutta l'attività di Wilson, una grande difesa dalla depressione. Stafford invece, che è uno psicanalista lacaniano, e sulla rivista Essay è uscito un suo articolo proprio su Wilson, ne fa un nevrotico ossessivo, devo dire, fondandosi, diciamo così, su una nuova biografia di Wilson pubblicata alcuni anni fa, perché intanto si stanno occupando un po' di Wilson, perché questo è il centenario della prima guerra mondiale, cioè a dire che Cronoga ha pubblicato questo testo proprio nel centenario della prima guerra mondiale, e vedremo che a mio avviso questo testo ha molto a che vedere con la questione della guerra, il suo destino è legato alla guerra. Stafford ne parla come di un nevrotico ossessivo, devo dire che non porta fino in fondo questo, perché dalla nuova biografia fatta da questo autore, ti faccio avere, diciamo così, il testo, su Wilson, appare che non è vero quello che dice Bullitt su questa faccenda delle donne, che per esempio quando era sposato con Helen, la prima moglie, lui aveva anche un'altra donna e quindi sdoppiava continuamente le sue donne, che era un tratto tipicamente ossessivo. Però secondo me non va fino in fondo su questa diagnosi. Davide, diciamo così, coraggiosamente nella sua introduzione avanza una sua diagnosi, cioè una diagnosi tra virgolette, perché ne parla di melanconia al potere e poi fa riferimento agli stati maniaco-depressivi. Qui si tratta effettivamente di fare molta attenzione, perché non si tratta di una diagnosi individuale, perché si deve tenere conto del fatto che Wilson è stato un personaggio storico, una figura sociale, che ha attratto, è stato il catalizzatore, che ha attratto delle masse, quindi diciamo così, bisogna capire questo. Quindi io avanzo una diagnosi, perché non mi voglio sottrarre. Bene, una meraviglia. Avanzo la diagnosi a condizione di sfumarla sul versante psichiatrico. La diagnosi che io avanzo di Wilson è quella di idealista passionale. Io avanzo questa diagnosi. Chi erano gli idealisti passionali? Cioè, gli idealisti passionali erano una categoria psichiatrica del Novecento, qui molti lo sapranno, elaborata da Dido, uno psichiatra francese che Lacan conosceva bene, e che consisteva in questo fondamentalmente, cioè consisteva nel fatto che c'era un'idea prevalente, carica di passione, e infatti gli idealisti passionali rientravano in quelle che erano le cosiddette psicosi passionali, cioè che si sviluppavano a settore e non a rete come i deliri di persecuzione e i deliri di interpretazione, c'era un solo compito, una sola idea prevalente, carica di passione, diciamo così, che caratterizzava e dominava tutta la vita del soggetto. Tra gli idealisti passionali, Did, questo psichiatra francese molto importante, faceva rientrare gli inventori, cioè quelli che passavano tutta la vita a inventare qualche cosa, i riformatori sociali e i riformatori religiosi. Cioè, ora sono questi ultimi che ci interessano. In effetti, diciamo così, se leggete attentamente l'introduzione di Freud, e invito a dire questo, che secondo me l'introduzione di Freud va letta tenendo conto che Freud l'aveva scritta in tedesco e non in inglese, è Bullitt che la traduce in inglese, ma Freud si trova, l'edizione è scritta in tedesco, e vedremo la grande importanza del riferimento al testo tedesco. Prenderò qualche minuto in più, però diciamo, ci tengo soprattutto a dire delle cose che a mio avviso sono importanti sul piano della clinica sociale, perché Freud lo dice chiaramente nella sua introduzione. Wilson, citato da solo, è un grande idealista. Freud dice questo di Wilson, e a un certo punto Freud dice anche una cosa a proposito di Wilson e di tutti coloro che lui fa rientrare nella categoria di Wilson, che appartengono proprio agli idealisti passionali, nel senso però di sfumare la dimensione psichiatrica. Dice che c'è una dedizione acritica e sfrenata a un solo compito. Freud dice proprio questo parlando dell'introduzione. E poi, in più avanti, nella parte curata insieme a lui, si dice che lui è stato il leader di tutti gli idealisti del mondo. Cioè, praticamente, lui incarnava esattamente questo tratto, diciamo così, tipico dell'idealista. Dell'idealista, diciamo così, dominato, come viene detto in vari luoghi del testo, da forti passioni, dalla passione che metteva nei discorsi e che già Adriano ha sottolineato esattamente nella dimensione dell'oratore. Viene quindi sottolineata la dimensione passionale e la dimensione dell'idealista di Wilson. Questa idealità passionale in che modo si esprimeva nel signor Wilson? Si esprimeva, diciamo così, nel fare riforme, nel riformare. Riformare e scrivere statuti dove arrivava questo signore, a Princeton, in Virginia, Oppure, per esempio, a un certo punto lui comincia in ritardo la scuola, diciamo così, la comincia molto tardi per ragioni di salute fisica, va, comincia a frequentare la scuola e fa parte di una squadra di baseball. Siccome non sa assolutamente giocare a baseball, che non ha mai giocato a baseball in vita sua, che cosa fa il presidente della squadra di baseball? E scrive immediatamente lo statuto, cioè di questa squadra di baseball, come devono essere fatte le assemblee. No, tant'è vero che io a un certo punto, leggendo questo caso, ho detto: ma io l'avrei scelto come presidente dell'associazione della Cagnara. Ho messi, diciamo così, che io dovrei rivedere alcune cose dell'organizzazione e non lo faccio, perché meglio di lui chi potrebbe esserci? Infatti, perché non bisogna far scrivere gli statuti a questo? Lui scrive statuti, vuole informare, ed è molto interessante che a un certo punto in Virginia, quando, diciamo così, e qui Adriano ha detto delle cose per me molto importanti per costruire questo caso, che tra i grandi americani lui non mette Jefferson, non prende proprio assolutamente concezione Jefferson, anzi deve trattenersi dal parlare male di Jefferson, e vedremo che secondo me questa appartiene a una questione fondamentale della storia sua familiare. Perché su che cosa Freud mette l'accento nella sua introduzione? Cioè, che cosa per Freud è effettivamente insopportabile di Wilson, che richiede la lettura, a mio avviso, di altri testi di Freud per capire? È esattamente l'applicazione dei precetti della Christian Science alla politica. Cioè, Freud è questo che lo dice apertamente. Questa Christian Science, cioè questa dottrina cristiana, diciamo così, questa dottrina cristiana applicata alla politica, Freud la cita, questa dottrina la cita in altre due circostanze. Guarda caso, in un testo che è la questione dell'analisi condotta dai non medici, che è del 1926, e Freud lì lascia intendere, diciamo così, che chiaramente si parla ancora perché lui ce la intenda, ma Freud ce l'ha con gli psicanalisti americani, perché gli psicanalisti americani limitavano l'esercizio della psicanalisi ai soli medici, perché erano solo gli unici che potevano essere rimborsati, diciamo così, dalle assicurazioni. Va bene? E quindi, diciamo così, Freud ce l'aveva. In una lettera a Freud l'hanno dovuto fermare, perché nel testo del 26, essendo lui un combattivo, avrebbe detto agli americani: voi non avete capito niente di psicoanalisi. Freud lo fermano, e nelle lettere private con Ferenczi Freud dice: questa è l'ultima maschera della resistenza contro la psicanalisi. Vabbè. E lì Freud cita la Christian Science, cita la dottrina cristiana, e poi la ricita del disagio della civiltà, cioè in due testi che sono, diciamo così, più o meno dello stesso periodo, in quello dell'introduzione al testo di Wilson. Ebbene, Freud che cosa dice, diciamo così, a proposito di questa Christian Science? Dice apertamente che consiste in una Verlohnung, cioè il termine tedesco che Freud usa, diciamo così, è che nell'introduzione è tradotto con negazione, il termine tecnico usato da Freud è la Verlohnung, è un rinnegamento. Cioè, Wilson ha la tendenza a rinnegare Verlohnung, la verità. Ora, questo proprio esattamente, Freud parla per esempio nel testo del 26 sull'analisi laica, dice che la Christian Science si fonda su un rinnegamento dialettico dei mali della vita. Qual è la verità? La verità è il male. Tant'è vero che questo testo introduttivo di Freud è veramente ricchissimo sul piano della lingua tedesca, perché ad un certo punto Freud dice: liberaci, liberazione dal male, ed è esattamente la frase del Padre Nostro, è esattamente liberaci dal male. Cioè, il problema di Wilson è quello che, dice Freud, applicando questo si fa come colui che deve redimere dal male, deve togliere il male dal mondo. Ed è questo che viene rinnegato. I fatti che interessano a Freud non sono i fatti, cioè che praticamente Clemenceau faceva i cazzi suoi, quell'altro faceva i cazzi suoi, no, i fatti che interessano a Freud è il male radicale che non può essere tolto, ecco, se così possiamo dire. Allora, quindi noi abbiamo la Verlohnung e la religione messe insieme, applicati letteralmente alla vita politica, cioè questo è, e Freud questo prende di vita, perché è tanto vero che la ragione per cui il don, come giustamente ricordava Adriano citando Davide, la ragione per cui Freud viene rimandato questo testo è perché lui e Bullitt non avrà fatto d'accordo su questo punto, cioè Freud è stato costretto a togliere parecchie cose, però nell'introduzione, siccome è una persona astuta e intelligente, nell'introduzione fa capire qual è la sua direzione. Ora, questo misto tra religione e politica, tra religione e Verlohnung, scusatemi, che poi viene trasferito alla politica, diciamo così, e su questo ovviamente un politico può negare i fatti, ma un politico se nega l'esistenza del male o si propone, diciamo così, come colui che deve eliminare il male dal mondo, diventa più problematico. Vabbè. Ora, questa connessione tra Fanlovung e religione, invito tutti i giovani che stanno qua, si trova esattamente in un testo di Lacan, che è La scienza e la verità, che è un testo del 65, poi pubblicato poi nel 66, è l'ultimo testo che chiude il ciclo. Cioè, Lacan qui parla della verità, diciamo così, dice che la verità della sofferenza nevrotica, la causa della la verità della sofferenza nevrotica è di avere la verità come causa. Lacan dice così, che la verità come causa è la verità della sofferenza nevrotica. E a un certo punto Lacan fa un discorso, distingue quattro tipi di discorsi: la magia, la religione, la scienza e la psicoanalisi. E a ognuna attribuisce una causa. La magia è la causa efficiente, la religione è la causa finale, alla scienza la causa formale e alla psicoanalisi la causa materiale. Lasciamo stare poi come tenta di dilegare tutto attraverso la psicoanalisi, non ci interessa. Quello che ci interessa qui è che il soggetto religioso, Lacan usa questa espressione, il soggetto religioso, diciamo così, si fonda su una, Lacan usa due termini diversi, su una denegazione, cioè su una Verneinung, e poi usa il termine Verneinung, denieti, sono due termini diversi. Cioè, e si pone il problema, cioè, ma dove si situa la causa di questo soggetto religioso? E dice che, sostanzialmente dice questo, che vedremo ad un certo punto anche in Wilson, il religioso lascia a Dio il carico della causa, lascia a Dio il carico della causa e si taglia fuori dall'accesso proprio alla propria verità. Cioè, questa è l'operazione che fa. E naturalmente, lasciando a Dio il carico della causa, che è quello che fa Wilson quando viene eletto presidente degli Stati Uniti. Cioè, Wilson che cosa dice a Combs? Dice, guarda, ma tu non conti niente, è stato lui che ha voluto che io fossi presidente degli Stati Uniti d'America. Naturalmente, quando lascia all'altro, a Dio, la causa della sua verità, deve fare dello scopo dell'altro il suo scopo. E qual è lo scopo dell'altro? La causa finale è quella di garantire, appunto, come già diceva Bruno, che Freud usa proprio questa dizione della pace perpetua, citando tra virgolette il testo di Kant, perché Freud fa a questo testo di Kant del 1795-96 come il suo riferimento, e la pace perpetua si trova sia lì sia in un carteggio importantissimo che del 32 con Einstein, perché la guerra. E allora su questa questione, cioè su questa questione della causa messa nell'altro, cioè l'altro che desidera che io faccio questo, tanto per esempio Wilson si tira in Wilson, ed è questo punto che volevo discutere con Davide, perché nella malinconia tu hai un quadro clinico abbastanza principe, se l'autoaccusa, cioè il delirio di identità. In Wilson tu non hai mai nessun momento di autoaccusa, cioè lui non dice mai a se stesso, io sono colpevole, io ho sbagliato. No, non lo fa mai in nessun momento. E allora è sulla questione della guerra, diciamo così, che volevo chiudere questo discorso come terzo punto del mio intervento, perché è lì la questione. Cioè Freud si appunta su questa questione perché quello che Wilson rinnega fondamentalmente è proprio il male. Ora Wilson, il discorso di Wilson effettivamente non è altro che l'identificazione piena tra il soggetto religioso e il soggetto politico. Questo è il punto importante. Questa religiosità a Wilson da dove viene? Qui mi sembra molto importante quello che ha detto Adriano. Può sembrare, diciamo così, agli occhi di, ma dire vabbè, è una questione politica, invece secondo me è stata molto importante, perché era esattamente un buco che io avevo nella lettura, non essendo una persona che si occupa di filosofia politica, eccetera. Questo discorso gli viene da un discorso familiare, non solo dal padre, da tutta la famiglia. È il discorso familiare, non i personaggi della famiglia soltanto. Per esempio, Woodrow viene dal nonno materno, che era un pastore presbiteriano. Thomas viene dal nonno materno, sono i nomi, e qui voglio ricordare che, diciamo così, questo nonno materno, quando vede il bambino piccolo, perché la madre scrive a questo nonno, e purtroppo gli viene dato in onore il nonno materno questo nome, quando questo nonno vede il bambino dice: questo da adulto diventerà il moderatore dell'assemblea generale. Cioè, questo era piccolissimo, e Rosanna l'altra volta, martedì, ha fatto una bellissima lezione in cui ha messo in evidenza che cosa significano i significanti con cui siamo accolti quando veniamo al mondo. Cioè, no, quindi significa il nome del nonno, questo nonno a cui la madre poi scrive, dice, un bambino buono, No? Quindi il rapporto con la religione faceva profondamente parte del discorso familiare di Wilson. E qui ci sono delle considerazioni molto importanti, perché c'è una pagina 131 che a mio avviso è molto importante sulla tradizione lollardiana, no, su cui io non so nulla, e sulla questione, diciamo così, del fatto che ad un certo punto questo signore si trova nella civiltà britannica, cioè lui si riconosce il cittadino medio britannico, no? E infatti che cosa succede, diciamo così? Succede che la madre, lui è la prima generazione che nasce in America, perché il padre e la madre sicuramente non è nata in America, perché arriva, Jesse arriva in America a 9 anni dopo un viaggio con i barconi che vedete esattamente oggi alle coste della Sicilia. Vabbè, è un po' più... più peggiore. No, meglio, un po' meglio. 2 mesi di viaggio, si dice. Praticamente, e dice che la madre di lei muore dopo un mese che erano arrivati in America, e che era una donna sofferente, sovente e silenziosa, e praticamente insomma si fa in modo tale che chi ed erano, su che cosa viene fatta l'esistenza, che cosa accade nella vita di Wilson, cioè lui, c'è questo padre incomparabile, chi era questo padre che trasmette questo discorso del genere? Era un uomo tutto e parole, infatti era un uomo tutto e chiacchiere. Cioè era un grande oratore preso, catturato e suggestionato dal linguaggio, ed era solo questo. Il padre di Wilson era, diciamo così, per molti aspetti, mi ricorda il padre di Joyce per qualche tratto, che era qualcuno che parlava, poi diceva al figlio vai dai gesuiti perché là si studia. No, però era un chiacchierone. Non mi ricordo il padre di Schreber, che era invece un uomo che... Però è un idealista nazionale, sì. Il padre di Schreber. Sì, ma il padre di Schreber faceva le cose, perché il padre di Schreber, i giardini educativi... Come Wilson, ancora adesso è famosissimo di Schreber, sì, però che cosa succede in Wilson? Cioè che cosa succede di quest'uomo che nasce lì, che non sopporta Jefferson, cioè non sopporta uno dei padri della Costituzione americana, che non dice una sola parola sulla rivoluzione americana che mette fuori il gioco l'Inghilterra, va bene? Che vedremo qual è la sua posizione rispetto alla guerra civile. A 16 anni e mezzo, quando comincia incontro a Brooke, diciamo così, che è un suo amico di collegio, a 16 anni e mezzo incontra indirettamente la figura del primo ministro britannico, Gladstone. Si, e tra i 16 anni e mezzo e i 20 anni, si decide il suo destino, cioè lui a 16 anni e mezzo prende il ritratto di Gladstone, lo attacca alla parete e dice quello è Gladstone, il grande statista cristiano, io voglio essere come lui, cioè fa di Gladstone un'insegna. Cioè che vuol dire questo? Vuol dire che lui si identifica esattamente a un tratto, al tratto che è dato dallo statista cristiano, e abbandona il padre, dice tu, lui non è vero che da dove traggono fuori Bullitt e Freud questa idea che lui faceva tutto quello che il padre diceva e non faceva quello che non diceva, che non gli diceva di non fare, non è vero, quindi dice a padre io non voglio fare il pastore presbiteriano, non lo voglio fare, non mi interessa fare il pastore, voglio diventare uno statista. Questo è il punto importante di svolta, che si gioca tra i 16 anni e i 20 anni nella figura di Gladstone. Ora questa figura di Gladstone mi ricorda quello che Lacan dice di Goethe per Schiller, che fino a quel momento era in impasse e poi durante l'adolescenza incontra qualcuno con cui potersi identificare e mettere un elemento al posto di quell'ideale di Dio che è rimasto vuoto, perché il discorso paterno è un discorso completamente vuoto, cioè il padre era tutto chiacchiere. Voi a un certo punto, se avete letto questo testo di Freud, vi siete accorti che una delle tensioni che si manifestano in Wilson è che lui a un certo punto deve fare qualche cosa. Io mi sono scocciato con la sua vita, voglio fare qualche cosa. Tra i 16 anni e mezzo mette Gladstone in questo posto dell'ideale di Dio, lo mette attaccato alla parete, si identifica con Gladstone, ne fa un punto di riferimento. A 20 anni legge un articolo, L'Oratore, in cui vengono elogiati Bright e Gladstone, e lì decide definitivamente che deve fare l'attività politica, e da quel momento in poi tutta la sua vita è legata a questo. Arriva a Princeton, arriva in Virginia, riforma e vuole riformare tutto, scrive un articolo che tu Adriano cita di modificare la Costituzione americana sul modello britannico. Ma scusatemi, Cioè, che cosa significa se non il fatto di ripristinare in America, e tu hai detto appunto che sembra che ci sia un vuoto nella sua formazione della cultura politica americana, che significa il fatto di ripristinare in America il modello britannico? Cioè, qual è la trasmissione intergenerazionale che passa tra la guerra americana, la rivoluzione americana e quello che arriva a questo signore? Che cosa è arrivato a questo signore che risulta come residuo irrisolto della rivoluzione americana? Perché questo signore a un certo punto sembra riferirsi al modello britannico e non riferirsi a quello che effetti era l'America? Ed è su questo che resti colpito, perché tu resti colpito sul tentativo di instaurare qualche cosa in America, diciamo così, che è fuori tempo. È fuori tempo, mi sembrava un punto importante. Cioè, lui va a Princeton e vuole organizzare questa università, non so che ne pensi tu, sul modello inglese, e vuole dividere il corpo studentesco in inglese. Che cosa fa questo signore? Va, scrive un articolo che viene pubblicato sull'International Review, perché gli viene accolto questo articolo, sul modello britannico di assetto istituzionale, se capisco bene. Fa tutto questo in nome del modello britannico. Quando, diciamo così, da dove gli viene questo discorso? Lui era un britannico. Ma non vi ha colpito un fatto importante? Che quando lui entra in guerra, diciamo così, quando a un certo punto porta l'America in guerra e fanno i trattati di pace, lui ad un certo punto, nella parte finale, quella là dove è veramente psicotico, cioè, è lui che aveva odiato Jefferson, perché lo odiava, lui che, diciamo così, non se ne fotteva niente di questa organizzazione degli Stati Uniti d'America e ingaggia delle battaglie per modificare tutto il nome suo, del modello britannico. A un certo punto fa i conti con il fatto che Lloyd George, ai tavoli di pace, è il peggiore di tutti. E a quel punto là si rompe l'identificazione di Wilson con il modello britannico. E la cosa che colpisce, sapete qual è? È quello che nel settembre del 1919, quando ormai i trattati sono fatti, il medico gli dice: guarda, tu stai proprio male, non andare a fare il giro, a difendere i trattati, e a difendere che tu hai realizzato la pace nel mondo. Lui dice: no, io devo andare. E che discorsi fa quando fa questo? Di cui però, diciamo così, voglio ricordare che anche Bullitt e Freud si pongono il problema che Gladstone dovrebbe dare la chiave dell'enigma di questa trasformazione di Wilson. Che cosa fa? Che discorsi fa questo signore? Che discorsi fa? Perché sono interessanti da leggere questi discorsi. Il 4 settembre 1919, voi lo trovate a pagina 272, dice, dopo che Lloyd George non ha voluto assolutamente cedere in nulla su questo, lui a un certo punto si rende conto di che cos'è l'Inghilterra, cioè di che cos'è quel luogo del suo discorso familiare, va bene, lui a un certo punto rompe, dice: meglio che la Mansur, almeno lo dice apertamente che vuole fare i fatti suoi, no? E fa due discorsi che sono veramente interessanti per uno psicanalista, perché il primo si trova il 4 settembre del 19, dice: provengo e ne sono fiero dall'antico ceppo rivoluzionario che fondò questo governo. È falso, è totalmente falso. Cioè, infatti, diciamo così, Bullitt, e lì è Bullitt che parla secondo me, dice: aveva dimenticato che la madre era un immigrato dall'Inghilterra e che il padre era la stessa cosa, cioè aveva completamente dimenticato, cioè aveva significato questo, che lui oramai non aveva più nessuna filiazione, perché lui non era di questo ceppo rivoluzionario. Ma l'altro discorso, quello del 17 settembre del 1919, è ancora più interessante, perché parlando alle masse, diciamo, dice a pagina, l'ho trovato a pagina 275, questa è la gloria che accompagnerà il ricordo del grande esercito americano, quello della prima guerra. Non ha vinto solo sull'esercito tedesco, ma ha conquistato la pace del mondo. Un esercito più forte di quelli che cercarono il Santo Graal, più forte di quelli che cercarono di riscattare il Santo Sepolcro, più forte di quelli che combatterono sotto la giovane missionaria Giovanna d'Arco, più forte di quelli che durante la rivoluzione americana ci riscattarono al plurale, io non l'ho avuto ancora il testo inglese, l'ho ordinato, al plurale dal dominio ingiusto dell'Inghilterra, più forte di quelli che durante la guerra civile salvarono l'Unione. Questo è un nobile esercito americano che ha salvato il mondo, cioè lui stava fuori completamente. cioè prima non ha riciclato niente, perché lui era uno che a Jefferson non lo mette, come giustamente ricordava Adriano, nel catalogo dei grandi americani, cioè la rivoluzione americana non la cita mai, e parla della guerra civile americana. Il padre era un sudista, altro che un uomo, il padre era un sudista, e di questa guerra civile americana lui effettivamente, come diceva prima Adriano, è molto strano, perché ricorda due cose molto strane: uno sfottò che si usava quando si vedeva qualcuno e la deliziosa zuppa di piselli della mamma. Cioè praticamente questa guerra civile scoppia quando lui ha 4 anni, si conclude quando lui ne ha 8, però lui ha un ricordo molto interessante, che è proprio un ricordo, il ricordo più antico di Wilson, risale quando lui aveva 4 anni, ed è questo. Il mio ricordo più vecchio è di quando, fermo sulla soglia di casa d'Augusta, Georgia, all'età di 4 anni sentì qualcuno passare dicendo che Lincoln era stato eletto e ci sarebbe stata la guerra. Attratto dall'intensità di quella voce eccitata, mi ricordo di essere corso dentro a chiedere a mio padre cosa volesse dire. Cioè, qual è il ricordo più antico? È l'enigma della connessione tra l'elezione di Lincoln e lo scoppio della guerra, cioè l'enigma della guerra. Guerra che Wilson odiava. Infatti c'è una testimonianza riportata da Bulli in cui dice: Wilson me l'aveva detto, io odio questa guerra, prima guerra mondiale, io odio tutte le guerre. E lui va in guerra per guerra alla guerra e ripristinare la pace. Ora, è proprio il perché della guerra che Freud, diciamo così, mette in evidenza che il punto debole della posizione di Wilson. Cioè, leggetevi il carteggio Perché la guerra, che è una richiesta che Einstein fa a Freud. Einstein, che faceva parte di un istituto di intellettuali istituito dalla Società delle Nazioni istituita da Wilson, chiede a Freud, chiedo a lei, io che sono un fisico, qual è secondo lei la ragione della guerra? Ora, per lo psicanalista, diciamo così, Freud l'articola sulla pulsione di morte. L'articola sulla pulsione di morte e mette in evidenza questo fatto che, diciamo così, è irriducibile il male della pulsione di morte o il male del godimento. Allora Wilson è stato un idealista appassionato, ha pagato un prezzo, l'ha pagato, e nella parte finale secondo me certo che è psicotico, perché lui non era un figlio americano, e tu mi hai dato delle indicazioni, perché il vuoto della sua formazione politica americana era esattamente quello là di ripristinare qualche cosa del modello britannico, di cui sappiamo poco in questa faccenda della sua storia, ma per esempio che il nonno materno sia stato costretto a lasciare l'Inghilterra per la fame, è costretto ad andare poi in Inghilterra, gli è detto qui nel testo, che il padre era soltanto un chiacchierone che stava lì, e come è uscita fuori improvvisamente questa candidatura di Wilson, con la rottura finale di questo patto segreto che lui aveva con gli inglesi, diciamo così, quando Lloyd George rompe i giochi e lui si tira fuori dalla filiazione inglese. Questo è un punto importante. Che significa stare fuori da una filiazione simbolica e immaginaria quando, diciamo così, ci siamo fondati su quella filiazione? Ecco, questo mi sembrava il punto del caso di Wilson. Un intervento vertiginoso. Secondo me si chiama questo per eccellenza. Perché comunque, no, io ti vorrei chiedere una cosa importante, perché è chiaro che quando io mi riferivo a questa questione dei fatti lo assumevo esattamente nella parte che io attribuirei molto più a Bullitt, che insomma secondo me interpreta Freud e lo riduce anche molto, e c'è una distanza abissale, tu hai fatto bene secondo me a indicarla, fra l'introduzione, che è sicuramente di Freud, e laddove secondo me Freud parla per bocca di Bullitt, che a un certo punto ho l'impressione semplifichi molto il discorso, anche per quei contrasti a cui appunto avete fatto riferimento sul ruolo della religione. Perché per i fatti, se uno legge Bullitt, i fatti sono esattamente che Clemenceau si fa i fatti suoi, che quello non capisce, e non la questione dell'esistenza del male e l'illusione idealistica di riuscire a estirparlo definitivamente. Questa, l'altra cosa che volevo dire, prima di passare la parola a Davide, che risponderà anche a tutta una serie di osservazioni, oltre a dire quello che pensa è giusto di dover dire, è che questa questione della religione io trovo che sia fondamentale. Cioè, io ho letto qualcosa sulla questione non tanto della religione in America e del rapporto religione-politica, che come si sa è, come dire, totalmente diversa dal modello europeo, dove da un lato non c'è ingerenza e tuttavia però la presenza pubblica della religione è infinitamente superiore a quella che invece si vive in Europa, ma della religione americana. Ovviamente il punto secondo me di partenza per tutti questi discorsi è William James, con le varie forme dell'esperienza religiosa e con l'idea che la religione in America ha questa, come dire, carattere propulsivo sulla persona e sulla sua capacità appunto di andare oltre i fatti, ma i fatti non nel senso, anche nel senso dei fatti più radicali che costituiscono la natura umana. E vi ricordavo una cosa banale, che il signor Bush Junior veniva descritto dai giornali, perché faceva parte di una chiesa anglicana, se non vado errato, come una figura che invece James aveva illustrato in Asia una seconda volta. E nella sua giovinezza era un alcolista Bush Junior. Questo ha a che fare probabilmente con il programma politico e il tipo di giustificazione della guerra, perché anche nel caso di Bush portare la guerra prima in Afghanistan, dico sempre Bush Junior, e poi in Iraq, e soprattutto nel secondo caso, perché la guerra in Iraq, se ci pensate, non aveva giustificazioni immediate di nessun genere. Quello in Afghanistan stava lì, Al-Qaeda stava probabilmente lì, Bin Laden responsabile dell'attacco alle Torri Gemelle, si poteva anche immaginare che questa guerra avesse una sua ragione concreta, politicamente spiegata. La guerra in Iraq è una guerra di strategia mirante a distruggere l'odio nel mondo, di eliminare il male nel mondo. Ha questo carattere la guerra di Bush, ed è chiaro che e dove la risposta alla guerra di Bush non può essere il pacifismo europeo, questo io l'ho pensato subito, era la risposta di Freud, che è un altro tipo di risposta, come mi pare che Mario ha messo molto bene in evidenza. L'altra cosa che volevo dire, l'origine della famiglia di Wilson è scozzese. Non mi ricordavo questo fatto, cioè, è scozzese, che vuol dire deve implicare anche qualche problema di identificazioni multiple a questo punto. Volevo ricordarvi anche, io ho fatto una piccolissima ricerca, sulla quale esperto è Adriano, io mi sono permesso di fatto andare in internet, non crediate. Allora, poi volevo capire dove viene questo Partito Democratico, perché poi il Partito Democratico decide di candidare. Ora, il Partito Democratico, in realtà, quando nasce, nasce in opposizione al Partito Federalista, e cioè è il partito che si oppone allo Stato federale come in qualche modo superiore alla volontà dei singoli Stati dell'Unione. E, se non sbaglio, è Jefferson che sta dall'altro lato, è il federalista. Il Partito Democratico nasce come partito dei piccoli proprietari terrieri, si oppone di conseguenza a tutte le tendenze industrialistiche che sono invece rappresentate dai federalisti, ed è, diciamolo francamente, il partito degli schiavisti del Sud, che poi ovviamente progressivamente perde questa caratteristica. Ma non dimentichiamoci che la guerra di secessione la fa un repubblicano, perché Lincoln è eletto per il Partito Repubblicano, che si stacca dal Partito Democratico Repubblicano dopo la fine del Partito Federalista. Per cui la storia è una storia un po' più complicata, e una cosa che oggi non si dice più e non si può dire perché non è corretto politicamente è che molto spesso i democratici sono stati più guerrafondai, proprio perché l'idea di fare la guerra alla guerra, cioè di fare l'ultima guerra definitiva, in realtà fonda proprio una posizione guerrafondaia, e i repubblicani probabilmente sono più restii ad andare in guerra o risolvono le guerre, come storicamente anche dimostrato nel Novecento. L'ultima cosa che mi permetto di, così accedendo al mio ruolo di moderatore, è che, sempre per merito questa volta della introduzione di Davide, perché io non lo sapevo, ho scoperto che Keynes, grande economista, padre del New Deal rooseveltiano, altro esponente democratico, in realtà aveva scritto un testo immediatamente nel 1919, che viene tradotto in francese nel 1920, sugli esiti del trattato di pace di Versailles, e dove anticipa appunto poi quelle che sono le critiche, devo dire, ormai diventate luogo comune storiografico, sugli effetti indiretti e dunque apparentemente non voluti, ma adesso abbiamo capito sotto sotto voluti in realtà proprio dal pacifismo idealista di Wilson, perché appunto, come sapete, in realtà poi il progetto di Wilson viene edulcorato completamente. Wilson non è in grado di gestire il rapporto con Clemenceau e Lloyd George, il povero Orlando sta lì più che altro a fare da comparsa, i quali i paesi europei ovviamente vogliono imporre alla Germania una specie di distruzione, che è esattamente quella imposizione del pagamento delle spese di guerra che porta poi la Germania alla situazione di gravissima crisi politica aggravata dalla crisi del 29, che sfocia paradossalmente nell'arrivo al potere di Hitler e nel fatto che dopo pochi anni ci sarà una seconda e ancora più grave guerra mondiale, quando Wilson con i 14 punti voleva in realtà impedire che per sempre ci potessero essere altre guerre. Questo è d'altronde il fulcro, mi pare, dell'analisi freudiana del caso Wilson. Allora, in questo testo, dove Keynes fa la parte di uno che ha una capacità di preveggenza stupefacente perché anticipa tutto, c'è una descrizione della posizione di Wilson che è divertente, perché sembra francamente che Bullitt la copi o che Freud la copi integralmente. Perché di Wilson, di cui si ricordano i crolli, le incapacità di gestire i rapporti con gli altri tre, diceva che cosa era successo al presidente. Le cause di questi crolli e della sua difficoltà erano molto ordinarie, dice Keynes, molto umane. Il presidente non era un eroe o un profeta, non era nemmeno un filosofo, bensì un uomo di generose intenzioni, con molte delle debolezze degli altri esseri umani e privo dei dominanti mezzi intellettuali che sarebbero stati necessari per contrastare via di seguito. Ma successivamente, dopo aver ripreso il paragone con Don Chisciotte che Freud e Bullitt riprendono integralmente, c'è un fatto che il presidente non era il re filosofo della grande tradizione platonica della sovranità politica occidentale. Il presidente assomigliava a un pastore non conformista, diciamo un presbiteriano. Il suo pensiero, il suo temperamento erano essenzialmente teologici, non intellettuali, con tutta la forza e la debolezza di quel modo di pensare, di sentire e di esprimersi. E va avanti appunto su questa descrizione di Wilson, che riprende ed anticipa tranquillamente appunto le descrizioni e le analisi fatte da Freud e da Bullitt. Mi fermo qua con poco di aggiunte che volevo portare a questa discussione e passo la parola a Davide, ricordando che Davide è un ricercatore di filosofia morale e anche lui è un collega di Salerno, un amico, e che dopo e che tutto intanto è uno studioso di Lacan, perché Davide nasce esattamente con un libro su Lacan pubblicato da Antonio Napoletano, oltretutto, che si chiamava Il desiderio dell'interpretazione. Poi ha scritto, l'autore della prima introduzione a Lacan che sia stata fatta in Italia per i tipi dell'editore La Terza, ma negli ultimi tempi diciamo ha spostato i suoi interessi, dopo essere stato uno studioso appunto di filosofia francese del secondo Novecento, su versanti, da un lato, le questioni della biopolitica. L'ultimo libro che ha scritto è un libro importante, si chiama La vita, un'invenzione recente, che è una ricostruzione del discorso sulla vita a partire da Darwin e degli usi anche politici che questa nozione di vita ha, fino ad arrivare per esempio a Foucault. Ma soprattutto è l'autore anche di un testo sulla paranoia politica, dunque è interessato a questo luogo d'incontro fra la filosofia politica e il discorso analitico. Tant'è vero che, come ricordavo prima, in questo rientra anche questa sua opera, diciamo, di diffusione culturale, per cui da un lato cura la riedizione einaudiana di Psicologia delle masse, Analisi dell'io, e ovviamente in continuità con quella scelta c'è questa proposta fatta a noi di rieditare il caso Wilson che a lui appunto anche lui cura e di cui fa la prefazione. E allora gli passo. Grazie. E grazie a tutti, e grazie a Adriano e a Mario per questi bellissimi interventi, molto ricchi di stimoli anche per me, devo dire. Io vorrei semplicemente, mettendo in fila una serie di osservazioni un po' scoordinate, segnalare perché mi è sembrato opportuno proporre la riedizione del testo e poi arrivare a alcune delle cose che sono state toccate qua e là. Il testo, questo testo, come è stato detto, ricordato prima, non fa parte delle opere complete di Freud, e nel momento in cui uscì nel 66 suscitò subito una reazione, come racconto nell'introduzione, di grande ostilità, nel senso che ricevette subito una doppia recensione sulla New York Review of Books, che è uno dei luoghi più importanti in America e nella società anglo-americana di pubblicità per i libri, una doppia recensione di uno storico, Hofstadter, che è uno dei più grandi storici americani del Novecento, e di Erik Erikson, che allora era uno degli psicanalisti più in vista negli Stati Uniti. E diciamo che era il contrario di un anti-americano. Erikson, l'ultimo libro di Erikson è una specie di elogio della cultura americana, un inno alla cultura americana, alla società americana. E entrambe queste recensioni stroncavano da un punto di vista storiografico, da un punto di vista psicanalitico, questo libro, sostenendo entrambe implicitamente che il libro in realtà non si poteva attribuire veramente a Freud perché faceva veramente troppo schifo. Questa era in sintesi là. Dopo molti anni, Roazen, uno storico della psicanalisi, in realtà politologo di formazione tra l'altro, che ha scritto anche cose interessanti sul rapporto tra pensiero psicanalitico e pensiero sociale e politico, e questo è successo in realtà tra la fine del secolo e l'inizio del secolo, negli anni 2000, tra il 1999 e il 2003, poi Roazen purtroppo è scomparso. Roazen, che aveva sempre tenuto d'occhio questo testo e che aveva anche in parte preso le distanze, soprattutto da Erikson, sostenendo che comunque il testo, per quanto anche a lui non sembrasse un testo dei più belli di Freud, era però da attribuire a Freud, questo a naso lo dice già negli anni 70, decide a un certo punto di andare a studiare negli archivi di Bullitt, che è questo diplomatico americano che Freud incontra negli anni 20, da cui rimane anche affascinato personalmente, io credo, e Bullitt doveva essere una persona di enorme intelligenza. Adesso non sto a raccontarvi la biografia di quest'uomo che è appassionato. E, tra i due nasce un'amicizia, semplicemente, e decidono di, su proposta di Freud stesso, decidono di provare a scrivere insieme un libro su questo presidente. Poi tornerò su perché. Ma Roazen, dicevo, all'inizio degli anni 2000, compie delle ricerche nell'archivio di Bullitt e scopre molte cose interessanti. Innanzitutto dei materiali inediti, in particolare un frammento che viene chiamato frammento del 1931, che è stato tradotto anche in Italia a cura di Ranchetti, che cito anche per il riferimento preciso nella mia introduzione, che è un frammento espunto dalla edizione definitiva del libro, un lungo frammento in cui Freud torna proprio sulla questione del cristianesimo e sulla figura del Cristo e sulla Christian Science, tutto questo aspetto della cultura americana che sembra interessarlo particolarmente. Trova questo frammento e spunto Roazen, che è molto interessante perché c'è una ricostruzione della figura di Cristo come figura androgina, ha molto a che fare, adesso la pista sarebbe troppo lunga, ma porterebbe direttamente poi alla Verleugnung e ai due usi che Freud e Lacan fanno di questo termine, quando si accostano a quello che Lacan definisce il soggetto religioso. Ma trova soprattutto una copia originale firmata da entrambi su ogni pagina, che Bullitt aveva voluto conservare per provare fino in fondo che il testo era stato approvato anche da Freud. Il testo definitivo che noi abbiamo oggi è un testo che filologicamente attribuibile a Freud, perché Freud ha messo la sua firma su ogni singola sacrosanta pagina di questo testo. nella versione che noi abbiamo, nella versione che è giunta a noi. In più, nell'archivio di Bullitt, Roazen ritrova questi frammenti e altri materiali che in parte sono inediti ancora, e difatti uno dei miei progetti sarebbe quello di reperirli e pubblicarli, perché penso che ci siano delle lettere di Freud interessanti anche. Dunque, perché questo libro è interessante? Innanzitutto perché è un libro di Freud, e secondo me qua c'è un problema di fondo che io sento anche questa mattina, e chi mi conosce sa che sono molto schietto quando parlo, quindi parlerò con grande schiettezza. Noi ci siamo dimenticati di Freud, e in questo senso io ho cercato di proporre, prima con Einaudi, poi con Cronopio, due testi che mi paiono particolarmente risonanti col contesto attuale, in cui Freud si interroga sul rapporto tra politica e analisi psicoanalitica. Ma in generale noi ci siamo molto allontanati da Freud. Noi lo riteniamo, Freud, un pensatore che appartiene al passato, e questo è un grave errore a mio avviso, è un gravissimo errore, perché Freud è più vivo che mai. Cioè, il testo di Freud contiene ancora dentro le sue venature, dentro i processi poi di riflessione che Freud compie nell'arco del tempo, molti elementi ancora utili per quella che chiamerei la ricerca psicanalitica. Se noi partiamo dall'idea che la psicanalisi è una scienza, a mio avviso è una scienza particolare, una scienza clinica, ma è una scienza, è basata su una ricerca clinica. E questa ricerca clinica è una ricerca in corso tuttora, cioè non è una ricerca completata dall'opera di Freud, tra l'altro mai dimenticata, o dall'opera di Lacan. E a me sembra interessante questo testo in particolare per gli spunti clinici che sembrano animare l'osservazione di Freud, al di là del fatto ovviamente che non è un caso clinico, è ovvio, è basato su testimonianze di seconda mano, ma è basato anche su una ricerca che Bullitt compie, va a intervistare negli Stati Uniti i conoscenti di per il maggiordomo intelligente che aveva conosciuto il giovane vecchio. Quindi c'è una ricerca, diciamo, storica indirizzata da Freud, cioè tra l'altro una grande quantità di tempo che Freud dedica a questo lavoro, in un'epoca in cui Freud era già molto malato e quindi calibrava bene i propri impegni. Quindi Freud, come dire, investe in questo lavoro. E c'è un elemento interessante. Ora, dell'elemento interessante, ovviamente l'elemento diagnostico, parlo prima dell'aspetto clinico e poi arrivo sull'aspetto più politico. L'elemento interessante, secondo me, è l'elemento diagnostico, o gli spunti di elementi diagnostici che ci sono in questo libro. E perché è interessante? Io non ho formulato una diagnosi, ovviamente. Non è il mio mestiere, io sono un filosofo e non sono uno psicanalista. Io ho ricostruito, e penso, e veramente potrei sfidare chiunque, testi alla mano, ci vorrebbero ore, che sulla base degli altri testi coevi di Freud si può giungere alla diagnosi che io gli attribuisco, che è quella di melanconia. Perché il problema della melanconia è un problema che attanaglia Freud letteralmente, lo sappiamo, sempre, perlomeno a partire dal 1915, da Lutte e Melanconia. Ma è un problema che accompagna poi la riflessione di Freud, io sto parlando della melanconia come categoria clinica diagnostica, quindi nella ridefinizione precisa che ne tenta di dare Freud, e che voi... Quindi diagnostica prebelliniana, cioè proprio malinconia, insomma, proprio... No, perché c'è una clinica psicanalitica, adesso arrivo su questo punto, perché per esempio quando Mario parlava di idealista passionale, ora è perfettamente, come dire, è interessante ed è perfettamente legittimo, tra l'altro secondo me, ripescare questa, però non è quello che interessava a me interessava dare degli elementi di indicazione sullo sguardo di Freud, cioè sulla posizione che dentro la tavola clinica psicanalitica che Freud va elaborando nel corso degli anni 20 e poi 30 assume il cassetto dove va a finire Wilson. E qui secondo me ci sono elementi interessanti. Ci sono elementi interessanti, e tu dicevi per esempio non è Wilson non ha questi fenomeni di autoaccusa tipici del melanconico, quindi come dire, Freud insiste molto, e dico bene Freud perché non è Bullitt in questo caso, Freud insiste molto sul fatto che Wilson attraversa dei periodi depressivi molto gravi, e noi ci possiamo facilmente immaginare che questi, che sono anche descritti come fallimenti nel libro, siano episodi all'interno dei quali si scatenano, siano episodi melanconici, voglio dire, cioè non c'è nessun bisogno che Freud scriva esplicitamente e probabilmente Wilson in quelle occasioni si autoaccusava, si sentiva un fallito, si sentiva eccetera eccetera. Ora, perché la diagnosi di melanconia? Ma perché Freud è molto semplice, vado molto breve perché poi a partire di qui si potrebbe fare un lungo discorso che invece non si può fare qui. Freud, in un testo fondamentale del 1923 che si chiama Nevrosi e Psicosi, compie o introduce una novità. Dice: non dobbiamo parlare soltanto, la faccio molto breve, non dobbiamo parlare soltanto di nevrosi e psicosi, perché la nevrosi io la descrivo genericamente come un conflitto tra l'io e l'es. La psicosi è un conflitto tra l'io e la realtà. In realtà esiste un terzo tipo di conflitto possibile, potenziale, che diventa il nucleo definitorio di una terza categoria oltre a nevrosi e psicosi che Freud non è che introduce ma ricorda, di cui ricorda l'esistenza in questo testo, nevrosi e psicosi, che sono quelle che chiama le patologie narcisistiche. Patologie narcisistiche che includono anche la melanconia nella concezione particolare che Freud sembra averne tra la fine degli anni 20 e la fine degli anni 30, a partire anche da altri testi che citano l'introduzione, chi è interessato può ritrovarli. Le patologie narcisistiche, tra cui anche la melanconia, sono forme di psicosi o nevrosi, ma qui siamo fuori da questa dicotomia, siamo in qualcosa che si avvicina molto alla psicosi, ma non ha la struttura della psicosi paranoica, cioè non ha la struttura del conflitto aperto tra Dio e la realtà. Ma il nucleo generativo di queste configurazioni patologiche è un conflitto tra l'io e il superio. Ora, il conflitto tra l'io e il superio è il punto tematico clinico di tutto il caso Wilson, di tutto questo libro. Cioè Freud insiste continuamente e ci dà anche un'introduzione in cui cerca di presentare un pubblico americano in termini quasi idraulici, accessibili anche a un grande pubblico, e si nota anche uno sforzo divulgativo, un riassunto a grandi linee delle grandi categorie psicanalitiche, e insiste su questa faccenda del narcisismo e del conflitto tra l'io e il superiore. Ora, a partire da questo e a partire da altre cose che ci sono nel libro e che si possono dedurre anche da altri testi di Freud, filologicamente, quello che a me interessa, si può arrivare, e io credo si arriva al 100% alla conclusione, che Freud, non io, perché a me non interessa formulare diagnosi ovviamente, Freud legge la vicenda esistenziale di Wilson come la vicenda di un soggetto melanconico, nel senso che Freud tenta di attribuire a questo termine. Nevrosi e psicosi è un testo molto interessante, questo testo del 23, dove poi Freud introduce una quarta categoria diagnostica, quella di perversione, ma adesso è giusto per dire quanto è complicato, quanto è complicata e quanto è mobile l'architettura teorica freudiana e quanto è poco studiata, a mio avviso, quanto potrebbe essere utilmente reintrodotta in un'attività di ricerca che confronta il testo freudiano con la ricerca clinica in corso oggi. Perché dico questo? Perché secondo me l'effetto che noi abbiamo vissuto tutti sotto l'influsso, come dire, straordinario dell'opera di Lacan è quello di pensare che possiamo rinunciare a leggere Freud. Leggendo Lacan abbiamo il meglio di Freud, in pratica. Io mi immagino che succeda qualcosa del genere. Ora, Lacan insiste ripetutamente dagli anni 50 alla metà degli anni 70 fino al 1975 sul fatto che il suo insegnamento non consente di eludere la lettura del testo freudiano, cioè quello di Lacan è un commento fino in fondo al testo freudiano, per quanto terminologicamente si allontani sempre più, le questioni rimangono le questioni di Freud e il modo in cui vengono formulate le questioni rimane il modo di Freud. Questo vuol dire che è necessario, scusate l'espressione, farsi il culo su Freud, secondo Lacan, se non altro, per una formazione psicanalitica che prepari a una ricerca psicanalitica che è ancora in corso. Ora, perché insisto tanto su questa faccenda? Perché qui il problema è quello delle psicosi, insisto sempre su questa parte clinica e poi arrivo sulla parte politica. Il problema è quello delle psicosi, su cui la psicanalisi lacaniana, o diciamo meglio, gli psicanalisti lacaniani, scusate se dico una cosa magari un pochettino scordata, ma si naviga abbastanza nel buio. Si naviga abbastanza nel buio sia sul piano diagnostico e differenziale delle varie categorie di psicosi, si naviga abbastanza nel buio sul piano del trattamento, ovviamente. Ora, sul piano proprio della psicosi, mi sembra molto interessante l'accostamento, e difatti ho un po' insistito anche nell'introduzione, sempre sul piano semplicemente filologico, le distinzioni che si possono trarre tra il caso Schreber e il caso Wilson. Mi limito semplicemente a una piccola notazione. Come è stato giustamente ricordato, credo, da te, Mario, il padre di Schreber, Moritz Schreber, non era per niente somigliante al padre di Wilson. Questo vuol dire che le dinamiche edipiche di questi due bambini hanno avuto un decorso differente e, in una prospettiva canonica freudiana, ma che rimane lacaniana a mio avviso fino alla fine, è la questione edipica che è il nucleo di tutta la faccenda. È il modo in cui si declina l'Edipo e il modo in cui si risolve o non risolve, perché in realtà non si risolve mai, il conflitto edipico, che determina poi la posizione soggettiva, il quadro, poi il cassetto in cui andiamo a finire. E ovviamente il padre Moritz Schreber non era il padre l'impareggiabile reverendo Joseph Ruggles Wilson. Freud ci dà delle indicazioni, secondo me, che vanno lette così in trasparenza sia sul padre di Wilson, di Schreber, sia sul padre di Wilson. Mi limito semplicemente a dire questo: non si sa, di solito non si ricorda, che Daniel Paul Schreber aveva anche un altro fratello, anzi ne aveva due, e uno di questi, diciamo, Daniel Paolo non era l'unico malato della famiglia, uno di questi suicida a 33 anni. E il caso Schreber è un altro testo che andrebbe, secondo me, ripubblicato in una nuova traduzione, però sarebbe forse editorialmente, come dire, non troppo promettente, perché è un testo in cui Freud ci dice, secondo me, di nuovo molte cose tra le righe. Freud bisogna leggerlo con grande attenzione, capire quello che può dire e quello che non può dire. E ciò che ci dice di Schreber e ciò che ci dice di Wilson sono cose molto diverse, cioè delineano quadri diagnostici completamente differenti all'interno di qualcosa che non possiamo definire nevrosi. In questo senso, secondo me, è un testo clinico ancora oggi interessante, ci può dare ancora delle cose interessanti sul piano della ricerca clinica proprio, perlomeno una ricerca che sia orientata da Freud. Ora invece voglio arrivare sulla parte... Ho già parlato troppo? Voglio parlare un attimo della parte politica, ma dire proprio due parole. Ovviamente Wilson non guarda i fatti e, come diceva Adriano, questo è il regime delle opinioni, questo è il regime democratico, eccetera, eccetera. Però, vabbè, il problema è che non guarda... ci sono fatti e fatti, cioè se io vedo che questa è una penna e me la dimentico, non guardo i fatti e questa ha una certa rilevanza. Se io mi dimentico delle mie origini, è un altro fatto e ha un'altra rilevanza. Diciamo, qui c'è una rilevanza clinica dei fatti che sono, diciamo, trascurati o dimenticati a un certo punto da Wilson, che diventa abbastanza interessante. Ma perché questo è interessante? Perché quello che emerge sul piano, secondo me, della, e in questo senso questo libro completa in un certo senso la psicologia delle masse, quello che emerge, cioè un punto su cui Freud insiste, secondo me, abbastanza, è il fatto che il grande successo politico di Wilson è dovuto a una grande maniacalità. cioè l'uomo era affetto da tratti maniacali molto pronunciati, e questi tratti maniacali molto pronunciati hanno un effetto di grande suggestione su platee di folle, soprattutto la platea europea più che la platea americana, all'uscita del primo conflitto mondiale, ovviamente. Questo tratto di accentuata maniacalità è messo in relazione da Freud con il quadro fantasmatico della vita di Wilson, in cui queste figure di sostituti paterni che compongono questo teatro barocco, che non è soltanto un'altra scena, ma ci sono un'altra scena, un'altra scena, un'altra scena, in questa profondità che Freud allusivamente a tratti, ma a tratti anche in maniera abbastanza chiara, cerca di ricostruire. Questo teatro barocco dell'inconscio di Wilson, composto di queste figure con cui si identifica e con cui entra anche simultaneamente in un rapporto ambivalente di forte competizione, disegnano una realtà fantasmatica che è più forte di tutto, di ogni appello che può arrivare dal reale, diciamo, per usare un termine lacaniano. Perché dico questo? Perché Wilson non è un uomo qualunque. Wilson è un uomo che si trova a decidere le sorti del mondo intero. Quindi non le sorti del gattino o le sorti di una famiglia. Diciamo che il principio di realtà bussa alla porta della psiche di Wilson con una violenza inaudita. È il mondo intero che si trova a un certo punto nelle mani di quest'uomo. Quest'uomo arriva alla conferenza di pace facendo delle grandi promesse, promettendo una pacificazione dell'Europa, del continente europeo, e quindi arriva alla conferenza di pace su posizioni totalmente eterogenee rispetto alla Francia e all'Inghilterra, che invece vogliono semplicemente vendetta, vendetta, cruda vendetta sulla Germania. Vogliono fare a pezzi la Germania, la Francia e l'Inghilterra insieme, la vogliono mettere in ginocchio e vogliono campare a spese della Germania per almeno 40-50 anni. Ovviamente questo non sarebbe stata e non sarà poi una pacificazione, e non era la pacificazione promessa da Wilson. Tutti quindi, quando Wilson arriva in Europa e fa questo tour europeo, tutti ripongono grande fiducia nelle promesse di quest'uomo, compreso Freud. Come Freud ci fa capire nella sua intenzione, Freud ci racconta di essere stato tratto in inganno da quest'uomo. Ma quello che colpisce poi è come Wilson ceda, diciamo, usando un'espressione lacaniana, cede sul suo desiderio, nel senso che non mantiene queste promesse, piano piano cede su ogni punto alle richieste di Francia e Inghilterra. Qua ci sono degli elementi storiografici. Io ho detto nell'introduzione che questo libro è una gemma storiografica. Ci sono varie ragioni per cui l'ho detto. Una di queste, diciamo, una delle più banali, ma anche più, diciamo, interessanti a una lettura anche non troppo accurata del testo, è che Bullitt, per esempio, compie delle insinuazioni tra le righe che comunque sono abbastanza evidenti. Per esempio sul colonnello House. Nella delegazione americana, oltre a Bullitt, c'erano tante altre persone, ovviamente. Nella delegazione inglese c'era Keynes, che assiste di persona ai colloqui, e per questo poi scrive questo libro. Una delle persone più importanti della delegazione era, diciamo, questo colonnello House con cui Wilson intrattiene un rapporto di nuovo fantasmatico, che è analizzato e decriptato da Freud, ma che ha una funzione anche molto importante perché è il suo consigliere più vicino, ed era un uomo che lo teneva molto prossimo alle posizioni inglesi, al punto tale che a un certo punto Bullitt avanza tra le righe, ma nemmeno tanto, il sospetto che House lavorasse in realtà per gli inglesi, che fosse una figura dentro la delegazione americana che in realtà faceva il doppio gioco, perché tra l'altro era anche inglese. È qualcosa di questo genere che Wilson annusa quando fa fuori all'improvviso House e quando denuncia, come tu ricordavi, questo distacco dall'Inghilterra, questa grande delusione, perché ha qualcosa di più di un sospetto, a mio avviso, ma questo Bullitt non lo può dimostrare, quindi non lo dice. ma è qualcosa, è una sensazione che si diffonde a un certo punto in tutta tutto l'entourage di Wilson e in Wilson stesso, e c'è questo forte distacco. Ora, qual è il punto? Il punto è che con questa realtà che bussa con violenza alle porte della psiche di Wilson, Wilson comunque cede. E qui è interessante, e questo è il punto che affascina per esempio un uomo come Keynes, che non è per niente uno psicologo, è un grande economista. Perché colpisce questo cedimento, questo fallimento di Wilson alla conferenza di pace? Colpisce perché Wilson e la delegazione americana avevano tutti i mezzi per imporre la propria soluzione, tutti i mezzi politici, economici e sostanzialmente finanziari. Potevano ritirare il proprio sostegno finanziario alle nazioni europee, compresa Francia e Inghilterra, e avevano un'arma di ricatto potentissima. Wilson aveva il coltello dalla parte del manico. Non c'era niente che potesse fermarlo nella realtà, diciamo, reale, nella realtà concreta, politica, finanziaria. Ecco perché lo stesso Keynes rimane turbato, come un po' tutti, dalla vicenda personale di quest'uomo. Ecco perché Keynes dice a un certo punto, ci vorrebbe, per analizzare quest'uomo, ci vorrebbe Freud, dice a un certo punto Keynes. Perché non si capisce come sia possibile che, avendo tutto a disposizione, avendo un progetto, tra l'altro idealistico, su quale si potrebbe tornare a discutere, perché Wilson comunque è la figura, non il Wilson del fallimento della conferenza di pace, ma l'ideologia wilsoniana, è una svolta nella storia americana, è una svolta molto importante per la storia politica americana, di cui noi paghiamo ancora oggi le conseguenze, tra l'altro. L'idea stessa di società e nazione è una cosa che è in parte frutto della mente di Wilson, e tutto questo dentro questo doppio registro in cui politica e religione, in particolare cristianesimo, in una certa variante del cristianesimo che è la variante evangelica americana, assumono storicamente. Ma dicevo, tutti rimangono colpiti da questo fallimento di Wilson, e il libro racconta, cerca di spiegare questo enigma storico, perché come è stato possibile che alla conferenza di pace si giungesse a un risultato tanto devastante, dal momento che gli americani potevano imporre delle condizioni che avrebbero evitato forse la Seconda Guerra Mondiale. Come è stato possibile? Questo è un enigma storico. È un enigma storico. Ecco perché nel libro si racconta come Wilson costruisce la sua delegazione, senza avere esperti nei vari settori che gli potessero dare dei consigli. Wilson non sapeva com'era, non conosceva la geografia dell'Europa. Non è che non, questi sono i fatti che non conosceva. Non conosceva la geografia dell'Europa. Se il Sud Tirolo in Italia è in Italia oggi, è perché Wilson non sapeva della geografia di quella parte del territorio europeo. E oggi i sudtirolesi che parlano tedesco sono con noi soltanto per questa ragione. Non aveva consulenti, non si porta consulenti, è una figura patologica ovviamente, e nel corso poi della conferenza intrattiene un rapporto con i suoi interlocutori che volge al drammatico a un certo punto, producendo poi il crollo finale e il cedimento finale di Wilson. A quel punto, come Freud racconta, il distacco dalla realtà ormai è compiuto e totale, anche perché la realtà con cui Wilson si deve confrontare sarebbe troppo violenta, e sia la fase finale, il tramonto, fenomeni che soltanto, diciamo, a uno sguardo superficiale possono sembrare semplicemente fenomeni somatici. Wilson corre verso la morte, secondo Freud, secondo la descrizione che Freud e Bullitt ne danno, corre alla morte, affronta l'ultima campagna elettorale con il dottore che gli dice se ti muovi, muori. Lui ci pensa una notte e poi, piangendo, con questo patetismo che lo accompagnava, dice no, ci devo andare lo stesso, e se morirò sarà per il bene degli Stati Uniti d'America. Ma ci sono altri fenomeni psicosomatici, o diciamo psicosomatici, ci sono altri fenomeni somatici che sui quali soffriva senz'altro di gravi problemi di pressione. A un certo punto perde la vista parzialmente all'occhio sinistro, poi si va a rimettere con una lunga decenza alle Hawaii. Ci sono diversi, diciamo, tasselli in cui ricomporre un quadro clinico, ovviamente per approssimazione. Dunque, sul piano della storia politica, questo libro tenta di rispondere a un enigma. C'è poi un ultimo piano, che è un piano diciamo più delicato e anche più non troppo prossimo a questo libro, ma che connette questo libro con la psicologia delle masse, cioè il fatto che un altro degli elementi che affascinano Freud è la grande popolarità di Wilson, che è una popolarità che in Europa, negli Stati Uniti e in Europa, si spiega in maniera differente. In Europa si spiega soprattutto col fatto che arriva pieno di queste promesse che lancia alle popolazioni sofferenti d'Europa dopo la Prima Guerra Mondiale, promettendo pace e benessere. Ma c'è un elemento di più, cioè sembra che Freud, e questo è d'altra parte, questo sembra diciamo in linea con quello che osserva nella psicologia delle masse, che la figura di Wilson sia una figura di leadership carismatica che risponde in un certo senso a un'attesa da parte di un certo tipo di massa, che in questo caso è la massa delle popolazioni europee. In questo senso ci sono degli elementi che possono essere interessanti per connettere questo libro alle conclusioni della psicologia delle masse. Però mi sembra di aver parlato già troppo, non voglio fare troppo casino, mi fermo qua. Grazie a voi. Abbiamo ancora un po' di... Sì, abbiamo ancora un po' di... Perché mi pare che la risposta di Davide abbia ribadito le sue posizioni, dunque c'è una serie di... opinioni differenziate, no, voglio sapere se da parte del pubblico e voi c'è qualche voglia di intervenire, porre delle questioni, perché molte questioni sono state messe sul tappeto, anche in termini, come dire, molto chiari di differenziazione diagnostica presa. La malinconia perché mi ha colpito, però io mi dispiace, leggerò sicuramente il libro perché mi avete stimolato molto, insomma, però non lo conosco, cioè non ho letto il vostro, e quindi posso dire solo questo, insomma. Però diciamo questa cosa di cui parlava Mario e di cui parlava lei, insomma, rispetto a questa diagnosi malinconia, quando io avevo chiesto a quale, diciamo così, perché poi è pure importante, diciamo, il riferimento critico, insomma, teorico, cui ci si riferisce, perché è vero, ha ragione, quando Freud parla di malinconia, sicuramente più che guardare alla clinica, diciamo, crepeliniana, comunque tutta la guarda, perfino ad Dante Alighieri, comunque, ci voglio dire, parla di una malinconia che ha qualche, diciamo, sostanziale differenza, semmai lo possiamo riferire allo scritto, diciamo, apocrifo della malinconia dell'uomo di genio, se vogliamo, cioè all'enigma tout court, alla follia tout court. Allora, detto questo, certo, lei da Rizzo ha ragione perché dice, beh, io vedo una malinconia, addirittura lei lascia anche intuire, diciamo così, una bipolarità, un disturbo bipolare. Bene, credo che però su questo stia, cioè voglio dire, ce ne sono, insomma, c'è perfino Kohut, Heinz Kohut, fa la sua introduzione, diciamo così, ai seminari, certo è un grande autore di self-psychology, non è certo un analista, diciamo, rigorosamente freudiano, e qui dice che Winston Churchill, tutto sommato, ha una patologia narcisistica. Secondo me è molto interessante, lo dice nell'introduzione, ovviamente le descrive, oggi lo chiameremo disturbo borderline, oppure bipolare, se vogliamo, per lì sono tante cose, cioè, ma al di là però delle diagnosi... Ma lei è psicanalista? Sì. No. Mi scusi, no, volevo avere solo la certezza. Va bene, sì. No, solo dico questo per dire che è interessante, diciamo, sul piano, diciamo, di che cosa possono essere, secondo me, ecco, chiarirsi anche un po' sulle sugli occhiali teorici che si mettono, certo. Perché altrimenti appunto si può totalmente parlare d'accordo di due parti. Ah, innanzi... diciamo, ecco, giustifico semplicemente perché le avevo fatto quella domanda, diciamo così, su quale era il riferimento, se fosse ovviamente la psicopatologia crepeliniana. Io dovrei dire, sono per andare d'accordo con Mario, non mi sembra che ci sia, diciamo, una costruzione melanconica di quel genere, però invece su riferimento che le fa più strettamente un fondo della psicopatologia freudiana che introduce categorie quindi inesistenti. Ma non sono completamente inesistenti comunque, perché nel trattato di psichiatria di Bloyer, no, ma nel trattato di psichiatria di Bloyer c'è già una ampia descrizione. Però guardi che forse c'è qualche categoria diagnostica che la psicanalisi, come dire, regala alla psichiatria. Questo c'è nell'ultimo lavoro di Giulio Fulvio, insomma, la descrizione. Ma comunque una chiesa questa, per carità. Dico invece quello che mi interessa molto è sulla trasmissione, perché un po' tutti avete detto il fatto dei padri, della trasmissione, il padre di Joyce, il padre di Schreber, ma possiamo dire anche il padre di quello che mi è molto simpatico, si chiama il padre di Caro Pazzo, ma mi sfugge questo nome. Le schizzone larghe. Esatto, le schizzone larghe, insomma, cioè un sacco di padri che sono messi in gioco. Scusate, Wolfson, sto anche scrivendo qualcosa su un lapsus. Allora, no, i padri, certo, hanno la loro importanza, come dice giustamente il professor Tarizzo, il padre di Schreber, però il padre di Schreber deve cadere mascara in testa perché abbia poi la sua, diciamo, come dire, il suo momento, il suo crollo depressivo, in realtà influenza, cioè è l'inventore della ginnastica medica, un padre che non dice parole a vuoto, come dice il padre di, tutto sommato, il padre di Joyce parlando con il fratello, no? Per cui poi Joyce dirà che prendeva a cartilena, cioè tutti una voce sulle parole imposte, cioè quindi è un altro tipo di padre, ma tuttavia è sempre il padre di uno psicotico, perché Schreber, che ovviamente, come diceva lui, il fratello che si suicida, poi c'ha insomma soltanto un paio di quelli erano cinque figli, cioè il nonno di Schreber scrive delle cose, ma anche lui che è, diciamo, uno psicotico, cioè. Perché succede che a un ministro della giustizia, perché lui stava per diventare ministro della giustizia quando va al crollo, certo. Non è solo che era il presidente della Corte d'Appello, eccetera, gli succede quella cosa. Ebbene, la domanda che è questo, non lo so, ve lo dico, cos'è che veramente non si trasmette? Cioè, perché se no dobbiamo dire, nella famiglia delle persone psicotiche, parliamo di questi che hanno avuto dei crolli, perché poi possiamo dire che questo Gergi aveva degli episodi, oppure Gesù Cristo, sono vari scritti. Cioè massa e potere degli escrementi pieno, diciamo, di queste cose, e allora lì potremmo parlarne meglio con Lacan, anzi con l'ultimo Lacan, con le sintomi, diciamo così, con uno è fatto in un modo e che visto da vicino nessuno è veramente normale. Ma detto questo, riferendoci a questo tipo di trasmissione, ecco, secondo me è capire che cos'è che non si trasmette. E io non le vedrei qui le vicende dell'Edipo onestamente in gioco. Cioè direi quello, ahimè, che non ha funzionato in questo. Cioè, padri talmente diversi e pur tuttavia con degli effetti che nel tempo, perché la prova del budino si fa mangiandola, perché Wilson ha i due crolli a un certo punto, lo stesso presidente Schreber, fino a 50 anni, parte l'episodio che ha avuto un anno prima, diciamo, un ottimo presidente, viene perfino candidato alle elezioni, le perde, prima della sua prima sciatura, però insomma, quello è un personaggio importante. Quindi voglio dire, mi domando che cos'è che non ha funzionato nella trasmissione, cioè un padre, che cos'è, quale sguardo non è riuscito ad orientare, che se questo può valere per Wilson, con tutta la cosa americana, cioè effettivamente come diceva Bruno Moroncini, sono stati attenti con gli aspetti religiosi perché lì hanno una grande, insomma, sono importanti, sono fondativi per certi aspetti, no? Lo stesso Jefferson, non so, ho visto un film bellissimo su di lui non da troppo tempo. Non è che era così avulso, eccetera, insomma, gli idealismi, i sostegni, i fondamentalismi, eccetera. Ecco, però quello che trovo, secondo me, una cosa che mi domando, non lo so, qui, cos'è che non riesce davvero? Tu hai parlato di un tratto, effettivamente qualcuno lo ha quando è grosso, è anche simbolico, altrimenti sono delle identificazioni, diciamo così, che funzionano su un asse puramente immaginario, cioè un'identificazione immaginaria che deve venire bloccata o dalla funzione, diciamo, come dice la Kant, che elimina il nome del padre infine, o comunque non ne fa più una grande presenza. Ecco, io domando questo, cos'è che non ha funzionato in quello che voi avete detto come trasmissione? Ci sono altre domande, qualcuna considerazione? Ma devo rispondere io, Mario? Vediamo, Bruno è lui il moderatore dell'Assemblea Generale. No, sono altre questioni. No, forse è meglio farlo. Sì, no, no, adesso è chiaro che tu devi rispondere, perché, però volevo capire anche se Adriano, se Mario voleva dire sì, altro, sì, certo, altra cosa. Cioè, sì, no, io un'eccezione la farei. Se non c'erano altri interventi da parte vostra, e allora utilizzerei quest'ultima mezz'ora, se siete d'accordo. Mezz'ora 40 minuti. Mezz'ora 40 minuti. Nel ridare la parola un po' a, intanto a Adriano. Io posso fare solo una considerazione, vorrei fare solo una prego, cosa. Prego, scusa. Ammesso che io, francamente, scusatemi, scusate un po' la franchezza, credo che sia un po' sterile questa polemica tra melanconia, perché io credo che il dottore ha spiegato bene la sua posizione. A me non... Ma non stavano ancora con la polemica, stava iniziare, vabbè, no, no, la soffocare sul non c'è la polemica, non c'è la polemica. Io accolgo, non ho letto, quindi lo faccio, diciamo, perché per stima nei confronti di Mario, anche la sua diagnosi, anche dalle cose che avete detto, mi sembra che sia in questa direzione. E volevo fare solo questa considerazione. Mi è piaciuto moltissimo questo ritratto, un po' perché mi sono interessato alla fotografia, ma soprattutto per un fatto che io credo che questo ritratto abbia, in linea con quanto diceva Mario, un suo valore non tanto nella positività della massa, piuttosto nella negatività che si trova tra le pieghe della massa. Cioè sono più evidenti le linee che si trovano delineate da questa massa, che sono le linee di vuoto di questo soggetto in realtà. Che è un soggetto disegnato dalla massa, in realtà non ha nessuna consistenza. Io credo che la sua, può essere un'ipotesi, dico sia molto azzardata, il suo cedimento anche, può essere dovuto anche a questo, cioè nel senso che questo soggetto come grande idealista cede sotto i colpi di un realismo che è più propriamente nevrotico, mentre questo soggetto grande idealista psicotico ha tutta la tenerezza, tutta la fragilità dello psicotico di fronte a questi. Questa era la mia considerazione, anche forse un po' azzardata, però tra la regalità, la semilità. Prego. Prego. Prometto che non ho avuto ancora il piacere di leggere il testo, e come molti altri testi, insomma. Riguardo appunto la sua ricostruzione che ha fatto di una diagnosi freudiana, di tipo freudiano, premesso che mi è parso di capire che quindi questa sorta di, come l'abbiamo chiamato, caso Wilson, si differenzia rispetto agli altri casi clinici freudiani e o ricostruzioni freudiane, il Napoleone o il Da Vinci, credo, se ben ricordo, vado a memoria, che probabilmente forse è l'unico caso clinico e non clinico, quindi una considerazione storica contemporanea su un uomo, contemporanea a Freud, non so se riesco a rendere l'idea. Quindi proprio perché lei ha parlato di considerazioni appunto cliniche, e non credo che, come diceva il dottor Rovagnolo, che sia una polemica sterile, anzi, tutt'altro, come diceva giustamente il dottor Bottone, ha senso parlare di, spero di ricordare bene, di melanconia se si parla di un soggetto collettivo. Credo che se, come diceva lei, Freud ha speso le ultime sue energie investendo su questo testo, l'ultimo Freud è un Freud abbastanza, non tanto pessimista quanto o pesante, se mi passate il termine. Io vedo l'ultimo Freud molto come gettato sul mondo, letteralmente, quindi condivido abbastanza l'idea che questo testo forse Freud ci abbia investito per un po' per passione, se mi passate il termine. Tornando al discorso della melanconia, della sua ricostruzione diagnostica, la domanda vera e propria è il rapporto con il potere, nel senso il melanconico, questo non sono riuscito a coglierlo bene, che rapporto ha allora con il potere? Nel momento in cui quest'uomo ha sulle sue spalle e nelle sue mani il destino e le sorti di tutto il mondo, sostanzialmente. Quello c'è. Sì, volevo chiedere se cioè, che rapporto c'è da tra Wilson con la melanconia, se è una melanconia come delirio morale, se questo lei intendeva. Delirio morale, voglio dire. Delirio morale, poiché diceva che si era mosso andando incontro alla morte. Che rapporto c'è tra la melanconia e c'è questo rapporto con la legge, che emerge un po' di interesse personalmente, direttamente del mio lavoro, è un po' vedo che è un po' il presidente della Corte di Appello, le riforma lì al Cambridge, questa squadra di football. Insomma, quindi anche se non è stata nominata mai questa parola legge, però mi sembra che spizzi un po' tra le pieghe. Che rapporto c'è in mezzo alla melanconia con la legge? E nel caso la legge. E nel discorso più ampio che allora, scusa, volevo soltanto, prima di passare alla parola di nuovo ad Adriano, leggere il passo di Keynes a cui faceva riferimento un attimo fa Davide, perché è interessante. Keynes si sta riferendo appunto alla fase terminale, diciamo, del trattato, della conferenza di pace, quando la Germania soprattutto fa notare che i risultati concreti e le varie clausole che sono state finiscono per contraddire i 14 punti che erano stati la base su cui si era impostata da parte di Wilson tutta la conferenza. E nota Keynes, questo tuttavia era proprio ciò che il Presidente non poteva ammettere. Nel travaglio della solitaria meditazione e pregando Dio, egli non aveva fatto niente, niente qui è sottolineato e messo in corsivo, che non fosse giusto e retto. Ammettere che l'obiezione tedesca era ben fondata avrebbe distrutto nel presidente il rispetto per se stesso e sconvolto l'intimo equilibrio della sua anima, ed ogni istinto della sua caparbia natura insorgeva a difesa. Nel linguaggio della psicologia medica, è qui che Keynes dice ci vorrebbe Freud, dire al presidente che il trattato rappresentava un abbandono delle sue professioni di principio equivaleva a toccare sul vivo un complesso freudiano. Era un argomento di cui era intollerabile discutere ed ogni istinto subconscio congiurava nel rifiuto di guardarmi più addentro. Cioè, È quasi ripreso la lettera questo passo. Allora, infatti, la cosa strana è che non mi pare che Bullitt citi mai Keynes, o sì, io questo non lo ricordo. No, ma il libro era molto conosciuto. Questo libro è il libro con cui, appena uscito, Bullitt si presenta a Freud. Ah, ok. Allora c'è una connessione. No, perché a me sembra di capire che il problema di Wilson, non prendo nessuna diagnosi, figuriamoci, è una banale osservazione. Cioè chi sa che quello che propone un programma politico è in partenza preparato al fatto che ci saranno tentativi di modificarlo. Cioè, questa è la cosa. Lui invece pensa ai 14 punti esattamente come lo statuto della squadra di baseball. Di conseguenza c'è un problema di assoluta adesione alla lettera, cioè lui non può venir meno a come sono e come lui ha scritto i 14 punti, che è un codice per lui, non un progetto politico che va confrontato con quello che accade. Cioè io ho l'impressione che, non lo so, la questione del desiderio, se lui ceda o non ceda sul suo desiderio, che poi qual è il desiderio di Wilson? Esatto, quello della pace perpetua, ma questo mi sembra che sia uno spostamento metonimico infinito. No, qual è il desiderio di Wilson? Voglio dire una cosa. Allora, ho l'impressione invece che il suo problema è che lui è totalmente governato, probabilmente senza alcuna simbolizzazione possibile, dalla lettera inconscia. Cioè, se l'è scritti, e questi debbono essere, quando gli si dice, ma guarda che poi la conclusione qua dice il contrario, dice no, non è possibile. Ma questo quelli è sono perfetti. Però è una banalissima osservazione. Senza la religione per lui c'è solo la pazzia. Cioè, questo signore lo dice a più riprese qui. Dice che se lui non credesse nella provvidenza divina, lui diventerebbe pazzo. Cioè, che significa che per lui la religione è il punto di ancoraggio. Questo è un punto importante, perché togliere la religione a volte scompensa i soggetti. Sì, questo è un punto importante. Cioè, il problema è che lui, come dice Keynes, che ho preso questo testo dopo che avevo letto questa cosa qui citata in esergo da Davide, effettivamente dice, lui non può venir meno ai suoi principi di fede, cioè alla sua professione, quelli che lui aveva sulla carta lì, erano i principi che lo tenevano in piedi. Poi dopo dirò qualcosa. Questo potrebbe rientrare, cioè, in un certo fondamentalismo dell'Antico Testamento, nel fatto che si legge il testo biblico evitando l'interpretazione. Cioè, io ho l'impressione che ci sia più questo. Poi l'altra cosa che mi veniva in mente è che, ma qui vado proprio così, cioè quando io penso al sovrano malinconico, penso ai sovrani di Shakespeare, certo, i quali vivono il fatto che il sovrano non conta più un tubo, questo mi pare, detto in termini banali, cioè hanno perso quello di cui rimpiangono costantemente, il fatto che non hanno più il potere carismatico o simbolico che loro attribuivano, posto che sia mai stato reale, probabilmente no, alla figura del sovrano. Però l'introiezione della legge del padre, cioè, la figura di Amleto è proprio l'introiezione, la messa, no? Ma appunto, poi Amleto alla fine uccide tutto quanto, ci arriva sì, un po' sì, no, è diverso, però... Però, come dice Lacan, alla fine recupera il suo desiderio. Io, vabbè. Cosa che mi sembra leggermente diversa, cioè sfugge alla malinconia che lo caratterizza come personaggio. Sì, perché comunque... Cioè, questo è una desiderio. Io ho capito che tutto quello che mi piace sta per terzo, e di conseguenza non si può dire che c'è una che cosa che non si è trasmesso. Cordiamo la parola di Gianluca per tutta questa lunga discussione. Il grande fastidio che ho provato leggendo questo libro, cioè l'unico grande fastidio, un libro che mi ha arricchito sia sotto il profilo della, diciamo, le due gemme incastonate l'una nell'altra, storiografico e quello psicoanalitico. Il fastidio che ho provato è stato nella visione, probabilmente attribuibile a Bullitt, di un individualismo politico, cioè nel senso tecnico proprio, cioè che la politica è fatta da individui posti in posizione di decisione che possono determinare una direzione piuttosto che un'altra di un'assemblea politica, di un trattato di pace, eccetera, eccetera. Lo si dice molto esplicitamente, il rimprovero di Bullitt a Wilson è: tu non sei stato abbastanza eroe come noi ti volevamo, e il mondo ha bisogno di eroi. No, non c'è bisogno di ricordare, povero il mondo, ha bisogno. Questa individualizzazione dell'elemento politico per me è estremamente problematica, per la mia formazione culturale, per la mia formazione politica, eccetera, eccetera. Cioè, pensare che Wilson a un certo punto potesse determinare il destino del mondo, francamente, mi pare proprio una cazzata, cioè, detto proprio sinceramente. Cioè, che se non avesse avuto il padre che aveva avuto, noi non avremmo avuto la Seconda Guerra Mondiale, che è chiaramente un esito dei trattati di Versailles, questo è ovvio, mi pare un addossamento eccessivo di responsabilità, che poi è la tara del libro dell'interpretazione di Bullitt, cioè che Bullitt questo gli riprova. Tu non hai avuto le... un altro poco glielo dice proprio, cioè non hai avuto gli attributi per fare... Sì, no, lo sapevo, non sei incerto se dico, non dico, come so. Scusami, perché questo invece mi pare che Davide abbia fatto un arretramento, almeno non su questo stamattina, perché nella sua introduzione invece lui... in qualche maniera avanza su questo punto, nel senso che dice apertamente la sua ipotesi, poi io non so proprio dire se è un sovrano melanconico, se è un sovrano paranoico, mi pare di no, insomma, a che patologia vada iscritto, però l'avanzamento che fa Davide nella sua introduzione mi pare abbastanza significativo, perché ci dice questo è un capo carismatico e non può non è definito un capo carismatico. Questo è, ma non solo in Europa, anche in America vince due elezioni presidenziali, cioè non mica cazzi, cioè voglio dire, due elezioni presidenziali, due, non una. Poi si fa, diciamo, naturalmente dopo la debacle del Trattato di Versailles, viene, diciamo, collassa definitivamente, non riesce, è orfano del suo stesso padre, insomma, del padre che lui stesso si è rigenerato con la Società delle Nazioni, perché come sapete, come si sa, l'America, non gli Stati Uniti, non entrano poi nella Società delle Nazioni. Quindi da una parte c'è il capo carismatico che classicamente conosciamo con il Freud, che appunto Davide ha ripreso anche nella sua riedizione della Psicologia delle Masse, che è il padre primordiale. E Davide nell'introduzione lo dice, che si può essere fermato proprio quando stavi per andare su questo, stamattina. E ci dice invece che probabilmente siamo davanti a un'altra tipologia di capo carismatico, completamente, cioè, un po' diversa, completamente, io direi radicalmente diversa da quella della... Tu non sei d'accordo, ho capito, vabbè, per stimolare la discussione, dal padre dell'orda primordiale. E lui, diciamo, utilizza questa categoria della melanconia esattamente per avallare questa tesi, mi pare di capire. Cioè, c'è una massa che ha bisogno di un capo che è melanconico, che non è più il padre dell'orda primordiale. E l'unica obiezione che faccio è invertire l'ordine degli elementi, dei termini. Cioè, qua non è appunto Wilson e la massa, ma è la massa e quindi Wilson. Cioè, io mi domanderei come mai Wilson è stato quel tipo di capo carismatico con tutte le psicosi e le cose che abbiamo analizzato. Cioè, che tipo di massa, di formazione di massa va davanti? Perché evidentemente questa massa poi si trasforma nel corso del ventennio, cioè fallimento di Weimar, naturalmente si trasforma completamente il tipo di capo carismatico e diventa veramente il padre primordiale. Lo dice come un esempio, cioè un corpo che pulsa completamente, il padre primordiale è un corpo che ha solo alcune vene che pulsano. E la mia obiezione è quelle vene che pulsano sono le vene della massa di cui lui si fa capo carismatico. E guarda che non è un'inversione per me indifferente, perché appunto è passare dall'eroe mancato e quindi dal grande sgomento dell'eroe mancato che era Wilson, a Wilson come perfetto interprete di quella massa. Per cui le obiezioni di Bull semplicemente sono obiezioni di uno che sta dentro le stanze e che appunto che sta dentro le stanze, cioè che non è l'obiezione di perché Wilson capo di quella massa. Ah, scusa, poi lo chiamavo San Mario. È interessante questa cosa. Cioè, la grande rimozione, se ho capito bene, del pensiero politico in Wilson nella rimozione della rivoluzione. Che è una cosa. Anche la mica cazzo, cioè, voglio dire. Perché sta dicendo Jefferson lo toglie e non ci avevo fatto caso. Cioè, effettivamente lo toglie perché l'ho detto, però non l'ho associato, come dire. E dall'altra rimuove la rivoluzione, naturalmente, la rimuove. E il grande problema in Europa su è questo, che c'è paura che è stata scoppiata la rivoluzione, quella bolscevica. Quella bolscevica. Che la cosa è naturalmente il grande... E infatti lui cede anche perché teme un'estensione E volevo capire per te che significa questa, cioè come la qualifichi questa rivoluzione della rivoluzione. Insomma, diciamo così, chiaramente Davide lo conosco, abbiamo conosciuto una volta al Policlinico che aveva un soggetto. Lo conosco attraverso i testi, ora arriva. Naturalmente, diciamo così, non è una questione di anni, solo andiamo un attimo al di là. Cioè, effettivamente, insomma, nelle considerazioni che tu hai fatto, diciamo così, nel tuo intervento, di questo vuoto nella formazione politica di Wilson, cioè, in effetti, lui viene da una... è la prima generazione che nasce lì in America. Cioè, la madre nasce in Inghilterra. Il padre nasce in Scozia. Ma proprio per questo avrebbe dovuto avere una filiazione mitologica. Cioè, la cosa incredibile è che viene detto, c'è una bellissima pagina, interessantissima, che io ho sottolineato, insomma, è la pagina 131, cioè dove ad un certo punto viene detto, ve la leggete, cioè, guardate, questo è uno che si è formato nella tradizione non conformista britannica. E tu vedi questa persona insistere, diciamo così, nel voler trasferire il modello britannico in America. Cioè, e allora le questioni si trasmettono, che cosa si trasmette, che cosa non si trasmette? Perché si possono trasmettere, diciamo così, anche delle neurosi di guerra in un momento di pace. Io ne parlavo con uno al telefono e la prima volta che ho letto questo testo, diciamo così, è perché il passo che vi ho letto sull'infanzia, l'unico ricordo di infanzia che ha Wilson, l'avevo letto in un testo come esergo di Sergio Filzi, Neurosi di guerra in tempo di pace. Cioè, io mi ricordo esattamente questo padre, mi convinco di comprare questo testo all'epoca della fede. Perché, diciamo così, tu diciamo, cioè immagina, faccio un esempio molto banale, va bene, molto corto. Io mi trasferisco con la mia famiglia in Africa. Va bene, mi trasferisco in Africa, mi trasferisco in un po', e a un certo punto ho due possibilità davanti ai miei figli: o di trasmettere integralmente quello che appartiene alla mia cultura, va bene, ed è quello che fa il padre di Wilson, cioè il padre di Wilson resta un pastore presbiteriano, sta lì a parlare al figlio, eccetera, eccetera, e fa questo, oppure rinunciare a trasmettere qualche cosa ai miei figli e dire vai in là, la psicanalisi qua non c'è, che gli trasmetta questo. Questa è tutta un'altra cosa, questo è un altro mondo. Rischiando o io l'isolamento psicotico, diciamo così, o mettendo mio figlio nella condizione di trasmettergli degli ideali che in un certo senso non trovano poi un grande riscontro nella realtà. Ma scusami se ti interrompo. No, va bene, nel senso che sono presbiterani e puritani, cioè calvinisti e puritani che trovano magari esattamente lo stesso ambiente. Cioè non c'è disagio. No, capito? Non è Africa. Quello che mi ha colpito di origine la stessa. No, no, ma hai ragione. Quello che mi ha colpito di questa faccenda è esattamente il suo tentativo continuo, diciamo così, di ripristinare lì qualcosa. Hai capito? Cioè poi alla fine sconfermare tutto quello che era stata la sua tradizione, anche le sue posizioni. Negli ultimi discorsi lui dimentica completamente. Ora mi sono chiesto, questo signore avrebbe potuto tranquillamente finire la sua vita nell'Alzheimer, del resto è capitato a Reagan questo fatto. Cioè lui avrebbe potuto concludere la sua vita dimenticando radicalmente tutto. Dove sta questo desiderio? Cioè il problema che si pone è che chiaramente non basta questo testo, ci vorrebbero molti più elementi. È capire, diciamo così, perché tutti gli atti di questa persona sono atti orientati in un certo modo. E per esempio, quando Davide giustamente diceva, ricostruendo il testo, che quando lui arriva lì al trattato di pace, lui poteva tranquillamente battere i pugni sul tavolo perché l'America li poteva mettere sotto tutto, lì si è dimostrato un ossessivo Wilson, perché lì ha arretrato. Ma si è dimostrato semplicemente un ossessivo, oppure potremmo dire un'altra cosa. Perché quando ho citato il passo di Lacan, La scienza e la verità, in cui la causa viene rimessa all'altro e quindi il desiderio dell'altro, Lacan si pone anche un'altra cosa, dice che il soggetto si taglia da se stesso, cioè che c'è un resto in questa operazione. E qual è il resto di questa operazione? Secondo me il resto di questa operazione sta negli effetti che tutto questo ha prodotto, che è quello di un desiderio criminale. Lo possiamo dire che quello che ritorna nella Verlogen del discorso religioso è esattamente il male che ho voluto mettere fuori da un'altra parte. Infatti Freud, e qui sono perfettamente d'accordo, che Freud lo dice lui questo. Freud dice, a un certo punto cita Goethe e dice che sempre desidera il male e sempre crea il bene. Però Freud lo cita dicendo che nel caso di Wilson va invertito, cioè sempre desidera il bene e sempre crea il male. Cioè in altri termini il problema che si pone qui è: che cosa succede quando il male ritorna? Quando il male ritorna, perché tutto questo è tornato, il Trattato di Versailles hanno preparato la Seconda Guerra Mondiale, che è stata più atroce della prima. Cioè la questione che il soggetto religioso non può assumere, ora al di là della diagnosi, l'idealista passionale, eccetera, è esattamente il suo desiderio criminale. Quello che Freud dice chiaramente, perché la guerra, dice guardate, ci sono solo due modi per aggirare la pulsione di morte, cioè la pulsione di distruzione. O è seguire il precetto ama il prossimo tuo come te stesso, ma Freud dice questo fa ridere, non mi serve, non mi interessa. O è la dittatura della ragione, la cultura di uomini di elite che ad un certo punto impongono sulle masse tutta una serie di cose. Ma dice queste due vie sono indirette, perché la pulsione di morte è letteralmente inestirpabile. Cioè secondo me a Freud Wilson interessa per questo. Cioè a Freud interessa Wilson perché tu hai proposto dei testi che vanno letti insieme a questo, io ti propongo dei testi che vanno letti insieme a questo, L'avvenire di un'illusione, Il carteggio con Oscar Pfister che era un pastore, Perché la guerra, Il disagio della civiltà, cioè sono i testi che circondano. Se tu prendi il testo l'introduzione freudiana in tedesco, tu vedrai sistematicamente tutti i rimandi a questi testi qui di Freud. Cioè proprio e Freud interessa questo, cioè che Wilson è il rinnegamento, il discorso wilsoniano, non Wilson come persona, ma il discorso di cui Wilson è portatore ed è supporto, è il rinnegamento del male, è del male che torna, è tornato, dice Freud, nei trattati di Versailles, Freud lo lascia dentro, cioè che quello che lui ha messo fuori da una parte è tornato, questo io penso, e che chiaramente è la posizione del soggetto religioso, cioè per esempio che significa quando lo psicanalista è un religioso. E occupa la posizione di analista come religioso. È una questione. Allora, prima di passare, io faccio delle notazioni per mettere dei rapporti, dei nessi. No, ma a me sembra che stiamo arrivando a porre questioni che possiamo solo indicare. Cioè, a me pare una cosa grandiosa, enorme, è che qua si gioca, credo, delle cose che avete detto voi stessi negli ultimi, interventi, il rapporto fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra e in generale fra gli Stati Uniti ed Europa. Certo. Perché per esempio se questa ipotesi è vera, cioè lui è prima generazione di nati in America, da genitori invece che provengono dalla Scozia o comunque dall'Inghilterra, c'ha questo mito inglese, come se, la rivoluzione americana, andando un po' veloce e anche banalizzando, la leggiamo come l'uccisione del padre, dopodiché ovviamente questo padre si scopre che uno lo amava molto, dopo averlo tolto di mezzo lo recupera. Allora la generazione di Wilson, è evidentemente una parte della massa americana in questo momento, hanno il problema di andare a recuperare questa figura paterna, che poi il suo modo sia tra nevrosi e psicosi, o come diceva Davide, in una terza ipotesi possibile, una patologia narcisistica, evidentemente vuol dire che qualche cosa in questa trasmissione è andata male, o qualcosa non si è trasmesso, forse non si poteva nemmeno trasmettere. Ho l'impressione però che questa questione, che si gioca non a caso sulla... perché io sono molto colpito dal fatto che negli anni, non tanto della prima guerra del Golfo, quella di Bush padre, ma negli anni inizio di questo nuovo secolo, con le due guerre Afghanistan e poi guerra in Iraq, queste tematiche si sono riproposte tali e quali, perché Bush è andato a dire che lui faceva, appunto come ci ha ricordato Adriano, questa guerra la faceva per imporre la pace. Allora, e l'Europa gli ha risposto dicendo noi siamo pacifisti, cioè l'Europa non gli ha risposto come gli rispondeva Freud, come Freud risponde a Wilson negli anni 30, gli risponde in tutt'altro modo, questa almeno è la mia impressione, cioè ergendosi anzi come il vero luogo della pace perpetua, come dire abbiamo capito l'antifona, poiché abbiamo l'esperienza di Wilson non ci crediamo più a te. E ti opponiamo il vero Kant, che siamo noi questa volta, non sei tu, non è l'America il vero Kant. Voi siete quelli che vogliono la guerra. La domanda che mi viene spontanea dopo le cose che ha detto Adriano è ancora più grave, ma non sarà che le masse, se il problema non è l'individualismo politico, ma le masse che investono questa figura in un certo ruolo carismatico o meno, non è che le masse che dichiarano di volere la pace desiderano di andare a guerra, perché questo a questo punto mi chiederei. E allora le masse europee che dichiaravano e dichiarano tuttora che vogliono la pace, poi alla fine quando hanno le guerre sul loro territorio non le vedono e chiamano gli americani a risolverli, che è una stranissima presa di posizione. A tuttora sta accadendo questo, no? L'incapacità europea di avere la difesa comune militare comporta che appena si apre una questione o nell'Europa stessa o nel Mediterraneo, che significa dietro casa, a questo punto la questione è l'America deve intervenire. Infatti oggi nel dibattito internazionale la questione è Obama non interviene più, o se interviene lo fa male, dunque non abbiamo più leadership. A parte Diego Fusaro che dice che bisogna essere putiniani perché Putin lotta contro l'imperialismo americano, ma è un'altra forma di delirio di cui ci parleremo un'altra volta, non so se voi siete cittadini di Facebook, ma se lo siete sapete che Diego Fusaro dice questo in continuazione, che è una tragedia. I bambini possono anche diventare presidenti, guarda, questo è perché questo è il problema, se è diventato Wilson presidente non si capisce perché fra 20-30 anni non potrebbe diventare Diego Fusaro presidente, non si sa mai, o qualcuno di simile a Carlo no, mi pare che tutte queste questioni stanno in gioco e sono importanti che noi le affrontiamo sulla base di un discorso analitico, adesso al di là delle questioni della diagnosi. Comunque vai, replica finale. Ma no, ma faccio una brevissima replica perché sarete esausti. E una replica, diciamo, prima con Adriano. Tu hai parlato di una rettifica o di una correzione di rotta. Parlavi della, diciamo, dell'introduzione alla psicologia delle masse e poi di questa, no? In cui io riprendo questo testo di Freud, in cui Freud dice che il leader carismatico, e siamo nel pieno del Novecento, siamo nel 1921, è una reviviscenza del padre primordiale, dell'Urfather. Qui vedi, io, come dire, se mi scusi, diciamo, il tentativo di andare alle spalle, non di quello che dici, ma del tono con cui lo dici. Ovviamente, detta così, questa affermazione di Freud si può subito riportare come un'enorme cazzata. Perché che cazzo vuol dire che l'Urfati ricompare in abiti borghesi nel pieno del Novecento? Ovviamente non è quello che Freud vuole, sta dicendo. Diciamo che io noto che con Freud non è applicato più un principio di carità interpretativa, che con Freud varrebbe la pena applicare, perché in Freud, applicando questo principio di carità interpretativa, si imparano, secondo me, un sacco di cose. Il rapporto poi che tu hai sottolineato della massa melanconica col... difatti è il punto che non ho toccato prima, mi sono fermato su quello, perché è il punto su cui finisce la psicologia delle masse. La psicologia delle masse è un testo, di nuovo, molto enigmatico, guardate. I testi di Freud sono estremamente enigmatici. Capire perché Freud inserisce una certa frase sulla quale noi di solito passiamo velocemente, ma capire perché ogni parola è al suo posto, ogni frase è al suo posto, può rivelare grandi sorprese a una lettura attenta. Ora, c'è un dettaglio che non è tanto un dettaglio della psicologia delle masse. La psicologia delle masse finisce con l'evocazione di un problema clinico specifico di punto in bianco che uno non si aspetta, il problema della melanconia. Perché Freud tira fuori questo problema? Che cosa ci sta dicendo? Ho tentato di ricostruirlo nella mia introduzione, perché i testi di Freud vanno ricostruiti, non c'era il computer, si scriveva a mano, Freud aveva poco tempo per scrivere, non mette sempre, come dire, non lavora con il word processor per cui può rimettere in fila le cose, lascia i suoi testi come traccia di una riflessione, a mano questa riflessione si complica. Quindi i testi di Freud vanno sempre ricostruiti nella loro architettura logica finale. Quello che Freud insinua, perché Freud è un ricercatore, cioè qualcuno che avanza nel buio, c'è sempre questa sensazione di avanzare nel buio, che Freud stia tentando di toccare, tastare con la mano delle cose che non vede bene. Questa metafora, tra l'altro, questo parallelo lo fa proprio esplicitamente qua, nel caso Wilson, quando descrive gli oggetti nello scantinato che la psicanalisi sta cercando di portare alla luce, e dice: noi in questo momento ci siamo avvicinati a quelli che sono più vicini alla porta, quelli che sono ancora in fondo allo scantinato, ancora non li conosciamo. Ora, in questo testo, molto quindi allusivo alla psicologia delle masse, ma questo è un problema che diventa poi cruciale se si legge in questo modo il caso Wilson, Freud insiste sul fatto che quella che chiama massa primaria, qui il discorso è molto lungo, o folla, diciamo, il tipo di aggregazione collettiva che si va imponendo in quegli anni, e molti soggetti, questa massa sembra essere fatta di soggetti melanconici. Se volete capire perché, adesso è impossibile spiegare, ma se volete capire perché, andate a leggere questa edizione che ho recuperato della... Quindi il fatto che a questa analisi delle masse melanconiche, diciamo, che sono il nucleo trainante di quella che lui chiama massa primaria, faccia da riflesso un leader che le cui venature psichiche non fanno che riprodurre e esaltare, però, capace anche di rovesciare poi in processi maniaco-depressivi, cioè di rovesciare in maniacalità questi tratti depressivo-melanconici, tutti questi termini così sono molto imprecisi. E sono indicazioni preziose. Ora, per darvi un'idea di quanto sia rudimentale il modo, io insisto, voglio insistere solo su questo, perché il senso di questa operazione editoriale è di invitare tutti a leggere Freud. Quando si legge la psicologia delle masse, o quando si sente parlare della psicologia delle masse, una delle più enormi sciocchezze che vengono continuamente riproposte per dirvi come noi capiamo e usiamo male Freud è che Freud sostenga che c'è un rapporto di identificazione tra la massa e il suo leader. Questa è una delle sciocchezze più ricorrenti quando si sente parlare della psicologia delle masse, che è anche ripresa tra l'altro nell'introduzione dell'edizione in audio questa cosa. Freud distingue nettamente in quel testo tra ipnosi e identificazione, e tutto il testo, diciamo, è costruito sul fatto che sostiene che non è un rapporto di identificazione, ma questo implica che noi cerchiamo di capire cosa vuol dire identificazione per Freud, cosa vuol dire ipnosi per Freud e qual è l'architettura teorica, ovviamente complicata. Perché questo è importante? E vengo alla seconda parte della cosa. Dal mio punto di vista, io non sono analista, quindi me ne fotto abbastanza di dover prendere... Mi attengo alla lettera. in questo senso ho un'adesione alla lettera del tipo che descriveva Bruno prima. Tra l'altro, per inciso, secondo me la tua osservazione è preziosissima, proprio per l'indicazione, diciamo, diagnostico su Wilson, questa attenzione alla letteralità. Ma il problema della trasmissione, voglio provare a dire qualcosa soltanto per finire su questo, perché qui di nuovo c'è un problema, secondo me. Diciamo che non, e qui secondo me c'è un dissidio anche. Il dissidio è questo, o il problema. Lacan, ancora negli anni 70, in un testo che ho riletto di recente, che è contenuto in altri scritti, dice, pronuncia questa frase: senza l'Edipo la psicanalisi è un delirio. È un'affermazione molto pesante, mi rendo conto che è un'affermazione che è anche difficile da assumere. Ciascuno poi di noi ha la sua provenienza, i suoi maestri, eccetera. Però io me ne posso fottere di tutto questo, perché io mi attengo alla lettera. E quindi quello che dico è questo: una psicanalisi freudiano-lacaniana senza l'Edipo è un delirio. Ora, perché l'Edipo è così importante? Perché l'Edipo è il canale specifico di trasmissione generazionale. Questo cosa vuol dire? Che anche quando l'Edipo sembra non entrare in causa, in realtà l'Edipo c'è, soltanto che il nostro modo di leggere le dinamiche edipiche, dal mio punto di vista, se non altro, mi metto nei panni, diciamo, faccio l'avvocato del diavolo, in questo caso Lacan, la nostra lettura delle dinamiche edipiche è limitata, cioè noi pensiamo che l'Edipo sia soltanto una certa cosa. Ora, l'Edipo è una cosa molto complicata, a mio avviso, e per risalire alla complessità della teoria dell'Edipo, non nulla di meglio che leggere Freud in tutte le sue possibili articolazioni. Questo, se non altro, era il punto che volevo segnalare di problematicità, diciamo. E poi la mia sulla trasmissione, sono perfettamente sì. D'accordo. Lei diceva di psicologia delle masse, anche lì, cioè, detto, le sì. Sono immaginarie, quando sono simboliche, certo che l'Edipo, se non altro perché non c'è. Lo stesso Lacan, scusa, io sono questo... freudiana, quindi lei dice, continua, sì. Perfettamente d'accordo con lei. Ogni volta dico, io sono in una scuola, non so se qua c'è qualcuno che vede, guarda, non andate proprio a leggere Lacan, se non leggete perfettamente Freud, i casi, eccetera. E questa è stata sempre, e quindi sono perfettamente d'accordo con lei, non si può leggere, diciamo, il problema dell'identificazione di Lacan se non si legge, ma si impara a memoria, psicologia delle masse, analisi dei video, tutta questa roba qui, e anche molto di più. Fermo, anche Freud dice, quando fa meccanismi della paranoia, dice, ma qual è la differenza tra il mio costrutto delirante e la psicanalisi e Schreber? Nessuna, me l'assumo, soltanto che la mia è condivisa. Cioè, quello che poi dirà. Questo però è un segnale molto importante di come Freud, secondo me, leggeva il delirio di Schreber. Da qualche parte, quindi non ci spaventiamo, cioè anche di quello che ha detto Lacan, giustamente, che la psicanalisi è lì. Ma certo, ma lì per la prima volta, a partire da quale costruisci un assetto teorico del c'è o del non c'è? È come la mancanza del fallo, cioè non è che. Se non c'è, non è detto, no, ma vede, che io non serva, è il punto in cui. Però se non c'è, in questo caso. No, ma è esattamente il punto di dissidio. Io, scusi, intervengo, la interrompo soltanto per ribadire la cosa. Questo c'è o non c'è dell'Edipo, secondo me è un abbaglio. Nel senso che l'Edipo c'è comunque, non c'è, diciamo, essere umano senza Edipo. E questo c'è o non c'è? Le faccio soltanto questo esempio, perché un esempio secondo me è abbastanza. C'è un modo di leggere la categoria lacaniana, no, ovviamente non freudiana, di fervore, di profusione, che consiste nel ridurre, semplificare questo tipo di ricostruzione della genesi proprio di un quadro psicotico, affermando che non c'è nome del padre o che non c'è l'Edipo, insomma, diciamo, possiamo mettere, di vedere la psicosi come qualcosa che elude la dinamica edipica. Ora, questo se non altro è con gli psicanalisti che conosco io e frequento io, che sono un certo numero, è, diciamo, una lettura abbastanza, in parte che sembra anche assecondata dalla camera, in realtà è un abbaglio. Secondo me il punto di dissidio tra noi due, che però secondo me è un punto, come dire, importante, in cui io non conto nulla, io dico, riporto semplicemente le parole di Lacan e faccio un lavoro filologico, è che l'Edipo c'è. L'Edipo c'è, ma si squaderna con configurazioni differenti, profondamente differenti. Vabbè, ovviamente. Ma in un quadro. Lo schema è che esattamente, esattamente. Sì, sì, sì. No, no, vabbè. Ok, stavo arrivando proprio a quello. Che lexicus, cioè, voglio dire solo questo, lexicus sono molto articolate e anche quelle che possono avere una presa e collettivizzarsi, perché una struttura clinica può collettivizzarsi. Allora, se io mi dichiaro del popolo eletto, sono un erotomane, cioè posso avere un rapporto erotomaniacale con il divino, cioè, perché nell'erotomania l'altro è l'altro che mi ama e l'altro che mi ha scelto, cioè, nel senso che bisogna, diciamo, tenere in considerazione le articolazioni in cui c'è dentro. E che cosa fa sì che un certo tratto può avere una presa su una collettività e può collettivizzarsi. Se io ho detto soggetto religioso, usando l'espressione di Lacan, perché il soggetto per Lacan è già collettivo, non è l'individuo. Come Lacan dice alla fine del tempo logico, il collettivo è il soggetto dell'individuale, in una nota aggiunta del 1966. Il soggetto religioso è il soggetto collettivo. Cioè, Wilson che cosa incarna, diciamo così, per quelli che... Allora io sono d'accordo, cioè lui aveva questo rapporto con gli statuti che scriveva, e ci sono dei momenti di tensione se leggete questo testo, che a un certo punto lui si... sentite che dopo il tempo per comprendere, per lui è giunto il momento di concludere, deve fare qualcosa, diciamo, no? E quindi trasformare in realtà tutti questi suoi discorsi. È chiaro che è affezionato alla lettera, perché è affezionato esattamente a questi statuti che lui scriveva, ma perché questi statuti erano portatori di qualche cosa. Questo era il punto importante, cioè la lettera assumeva questo statuto un po' particolare per lui, insomma. Cioè, è questa la cosa. Poi, diciamo così, dopo viene meno quello che viene... Però, insomma, al di là della diagnosi, bisogna anche individuare di volta in volta nella particolarità della clinica che cosa incarna quello lì. Perché io posso averlo l'Edipo, però non è che io applico nel caso individuale, cioè bisogna sapere, diciamo così, vedere nella particolarità. Lo sforzo che io faccio facendo questo testo è stato quello di ricostruire la storia di un percorso di Wilson, cioè di come questo signore è arrivato, diciamo così, fino a punto di diventare senatore e che cosa gli è accaduto dopo. Posso fare solo di carattere proprio strutturale, e per come vedo io la faccenda in Freud, adesso non tocco Lacan, ma secondo me Lacan comunque è identica, c'è una profonda differenza tra il contenuto culturale storico di una certa tradizione e il meccanismo, diciamo, strutturale della trasmissione, e questo fa la differenza, tutta la differenza della psicanalisi. Perché la psicanalisi individua un meccanismo della trasmissione che prescinde dai contenuti, che ovviamente poi si incatena su precisi contenuti, ma questo contenuto, questo meccanismo della trasmissione è oggetto di indagine di una specifica disciplina, che è la psicanalisi, e questo meccanismo di trasmissione si chiama Edipo. Edipo. Quindi in questo senso io sto semplicemente insistendo sul fatto che la psicanalisi è una scienza, diciamo che secondo me si potrebbe definire una scienza clinica della trasmissione, in questo senso che diceva la dottoressa, ha un suo campo specifico di indagine, ovviamente questo campo può andare a contaminare anche, e deve andare a contaminare anche il campo dell'analisi storico-politica o culturale, sì, in senso lato, antropologica, eccetera, eccetera. Però c'è un punto, e questo... diciamo, secondo me gli psicanalisti dovrebbero anche essere orgogliosi di questo. C'è un punto che, diciamo, è proprietà intellettuale solo e soltanto della psicanalisi, e questo qualcosa è molto importante, perché poi nella pratica clinica voi lo sapete che questo qualcosa è reale, che c'è. Vi dico un'ultima cosa, perché è molto interessante il dibattito con lui, perché fa sempre piacere anche questo continuo, diciamo così, incoraggiamento al ritorno, probabilmente mi trovo completamente d'accordo, ma nel senso proprio delle letture. Dico questo, però Lenzing certamente è uno studioso, lo ricorderà meglio di me, quando scrive, diciamo, al di là del principio di piacere, ha una posizione praticamente diversa dalle minute, in cui ovviamente l'eziologia, che sempre sessuale, comunque anche quella della psicosi, è sempre edipica, perché quello poi è, cioè l'Edipo. Avanti, superate delle grosse difficoltà, pensate a tutta l'acciaio, insomma, le prime parti sono sicuramente di un fascino assoluto del Monte, ma anche tante altre che precedono le Monte. Bene, detto questo, già con il presidente Scherber abbiamo un cambiamento, perché lui comincia a utilizzare il termine di getto, e quindi non usa più il termine di rimozione, perché non la vede la rimozione lì. È un'operazione importantissima. Nell'introduzione. E poi nel 32, lui lo cioè, chiedo scusa, quando scrive, scrive al di là del principio di piacere, lui a un certo punto fa una nota infine, piccolina, in cui rimette una posizione. Certamente non risolve il problema del principio di piacere, della legiferazione, del godimento, se vogliamo usare un termine lacaniano, quindi del desiderio, eccetera. Però dice, c'è una nevrosi, che è la nevrosi attuale. Quella che potremmo da guerra, quello che potremmo chiamare il disturbo post-traumatico da stress di oggi, che non ha un'etiologia sessuale. No, no, ma è chiaro. Comincia quella... a certo. Insinuare. È chiaro, Freud, che secondo me, ma quella io sono, vede, c'ho una formazione freudiana nel senso che mi permetto di dire, però insomma. Facciamo un'altra puntata, dai. Yeah. ragazzi che vengono a lui faccio la descrizione da pagare a scuola, no? C'è questo che è un po' così, che forse diceva tre che siamo tolle, ci preparavamo, ci andiamo a passare anziani, quindi che mi invitavano, non so se uscire la io sono stata in giro. Ma è fatto il nostro intervento. Io guarda, se tu dici che lui non ha costruito nulla utilizzando, cioè lui ha fatto fase prove e li ha applicati senza tenere minimamente il caso qui, insomma, cioè lui non ha preso capito. Allora, lui ha fatto, come ha detto, una costruzione filologica, no, che non poi dopo le va con la rete, e non l'ho letto, non l'ho letto, c'è una costruzione di 10 pagine, no, ma lui non ha fatto, ma quella interna. Ah, due, no, vabbè, ma è andato, tanto si bloccava, non preoccupare. Perché l'ha tradotta? lui, io ho capito che lui ha fatto un po' Deve anche cedere, sì. Queste blu, queste barre di peso. No, no. Ti dico soltanto.